a dicembre. Il mio nome è Willy Wonka. Sono una sorta di mago e cioccolatiere. Scopri come Willy è diventato Wonka. Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. Dal regista di Paddington. È buono. E dai produttori di Harry Potter. Troppo buono. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Perciò tu tieniti stretto al tuo. È tempo di cambiare il mondo. Timothée Chalamet è Wonka. Dal 14 dicembre al cinema. Stanno arrivando. Ho liberato forze infernali e ora il prezzo deve essere pagato. Derceto è la preda del male. Il sole è tramontato. Troveranno il mio corpo, ma non avranno la mia anima. Posso immaginare la furia del maestro e il terrore nei cuori dei suoi schiavi. Sento i loro passi. Alcuni possono capire quello che ho fatto. Che Dio mi perdoni. Addio. Jeremy Hartwood. Infogrames 1992. Frederick Reinhold, programmatore. Videogioco con telecamere fisse, fondali pre-renderizzati, Lovecraft, Necronomicon, lettera di suicidio, specchi, lampade a olio, revolver, fucile 1925, Edward Carnby, investigatore privato, Alone in the Dark. Prima esposizione tridimensionale all'orrore in un videogioco, creature sbilenche e sciancate che si muovono verso, poligoni lenti, impacciati, improbabili. Walzer di Frédéric Chopin, Johann Strauss Jr., Danza macabra di Camille Saint-Saëns. 1992, Alone in the Dark, magia nera ad una villa infestata, il terrore, il contatto con l'aberrazione, il male dietro una porta, subdolo, che aspetta. Il 13 marzo 2006 Frédéric Reinhold in Francia è stato nominato Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere, perché Alone in the Dark è fonte e paradigma di game design del futuro dei videogiochi a venire, perché Alone in the Dark è l'intuizione di ciò che si sarebbe poi chiamato survival horror, per sempre. Cari ascoltatori di Archeologia Videolurica, bentornati per un nuovo podcast di questa grandissima tradizione avviata da Simone Pizzi, che purtroppo, come avrete già scoperto ascoltando la mia voce, oggi non conduce la puntata e che purtroppo non potrà essere qui con noi a farci compagnia. Non abbiamo indagato sui motivi, ma saranno sicuramente di importanza mondiale. Con me a farmi compagnia ci sono quindi Luigi Marrone. Ciao a tutti. Ciao Luigi. Ciao. Che certamente conoscerete per la grande partecipazione a Dietrologia Videoludica e comunque anche ad Archeologia Videoludica. E attenzione, attenzione, Cristiano Caliendo al suo debutto qui su Archeologia Videoludica. Ciao Cristiano. Ciao, buonasera, sono felicissimo. Fra l'altro io questo voglio fare subito un annuncio: Calavera Caffè chiude in questo momento. Perché sì, il mio obiettivo era proprio partecipare ad Archeologia Videoludica, tutto quanto la fondazione del Calavera Caffè era finalizzata a questo momento. Esatto. Partecipando ad Archeologia Videoludica ti sputtani completamente, quindi ormai non puoi. Tu dici che è per questo, certo. No, vabbè, mi ha dato l'opportunità di conoscere IPN, Simone Pizzi, mitico sì. Scaletta, che saluto fra l'altro, anche se Nintendo gli voglio bene lo stesso. E quindi io posso anche chiudere con la raga a questo punto, sono d'accordo. Beh, allora ci vediamo, dai Cristiano, ci sentiamo prossimamente. Vabbè, restiamo così, anche perché volevo anche dire che quando mi ricapita di fare una puntata con Santilio e Luigi Marrone, scusate, infatti con Santilio stai attento perché Santilio si infila dappertutto. Luigi Marrone è più prestigioso e certo. Prendiamo con le pinze le vostre affermazioni. citazioni. Va bene, dai, ci facciamo un po' di complimenti così per riscaldarci. Dunque, riferimenti di archeologia videoludica, non sarò bravo come il Pizzi a dirli. Comunque, www.archeologiavideoludica.net è il sito ufficiale, @videoludica è il Twitter, Archeologia Videoludica su Facebook, la pagina ufficiale, Archeologia Videoludica anche su G+, che è chiaramente uno dei canali storicamente più frequentati da voi ascoltatori, e poi l'email archeologiavideoludica@gmail.com. Bene, direi di partire subito con il Barnett College prima parte. Dunque, Barnett College comincia e vogliamo cominciare appunto introducendo quello che è il survival horror, un genere che di cui si è tanto parlato, chiaramente poi negli anni 90 ha avuto un'evoluzione straordinaria, è diventato forse, io penso, addirittura tra i generi videoludici più gettonati dai vari produttori, dai vari publisher, perché tirava moltissimo. Forse non è stato proprio Alone in the Dark il primo a avviare questo trend straordinario, ma sicuramente ha portato moltissimo nella cultura videoludica e appunto nel genere horror. Ma cominciando da molto molto molto molto molto tempo prima, possiamo già trovare alcune tracce dei survival horror inizio anni 80. Ora, non so qual è la vostra opinione riguardo alla genesi del genere, diciamo che tendenzialmente lo si fa risalire a Haunted House per Atari VCS. Sì. Ci avete mai giocato nella vostra infanzia? Perché insomma, Io non ho giocato, però ho visto delle fasi giocate, perché per un periodo sono stato incuriosito da vedere l'origine, a conoscere l'origine solo dell'horror, quindi ovviamente da Haunted House, Ghost House e tutti gli altri giochi, insomma, sviluppati poi sia da Atari che da altre software house. Dico che ovviamente era una branca di videogioco, chiamarla survival horror a quel tempo, e fa quasi ridere se paragonata, sì, al infatti survival horror come lo concepiamo oggi, perché avevano una scarsità di elementi sullo schermo che ne inficiava l'immedesimazione. Sì, infatti, quindi esatto. Parliamo veramente delle origini, però hai fatto bene insomma a ricordarle, perché sono proprio i prodromi del survival horror, come è sulla bocca di tutti. Io comunque non so per quale ragione, e non ricordo neanche esattamente da chi, ho giocato, ma chiaramente nell'85-86 probabilmente, ad Haunted House, e da ragazzino di scuola materna, scuola elementare, comunque effettivamente ero terrorizzato dagli occhioni nel buio di questo tipo, insomma, che si aggirava in questa grande casa. Tu hai avuto altre esperienze traumatizzanti, Cristiano? Di survival horror? No, io questo gioco sinceramente non l'ho mai provato, anche se lo conosco un po' di fama. Sto vedendo qualche immagine. Effettivamente mi inquieta, forse per motivi diversi da quelli di Gianluca. Vabbè, comunque chiaramente. Dai. No, però una cosa che adesso non so, non vorrei, scusate se anticipo qualcosa che forse viene dopo, ma in effetti poi noi stiamo facendo una specie di analisi un po' retroattiva, perché l'espressione proprio survival horror non esisteva, no? Se esatto. Cioè non esisteva neanche poi il tempo dell'Unità Dark stessa, esatto. Quindi è stata coniata, penso, a fine, cioè nel senso nel post Resident Evil, credo. Quindi proprio con Resident Evil. Quindi riuscivano a fare cose che potevano, che adesso possiamo considerare survival horror, ma comunque in realtà poi ai tempi forse si venivano chiamati arcade, alcune avventure, no? Sì, sì, infatti. Comunque, piccolo trivia della situazione, Haunted House avrà presto un seguito, un reboot praticamente, di origine italiana. Lo pubblicherà chiaramente Atari, che detiene i diritti del gioco, quindi la ex Infogram, ma sarà un gioco programmato, se non ricordo male, dai Dream Painters, che sono gli ex, sono gli autori di Anna praticamente, l'horror italiano di qualche tempo fa, quindi speriamo che vada bene la loro avventura chiaramente. E sì, poi andando avanti per quanto riguarda, diciamo, l'evoluzione dei survival horror, dove credete che possa essere iniziata in maniera più concisa questa definizione, questa idea di horror vero e proprio. Io ho notato alcuni giochi giapponesi, ve ne linko uno particolarmente interessante che si chiama Shiryu Sensen War of the Dead, che sembra abbastanza horror, devo dire. Chiaramente è giapponese, i giapponesi quando devono fare queste cose si scatenano, possiamo dire. Di che anno hai detto? Scusa. Di che periodo? È un gioco del 1987. Ah, siamo okay. Sì, siamo andati parecchio avanti, diciamo, sì. per MSX2. Ed è un gioco molto molto particolare, perché praticamente è una sorta di multievento, se così possiamo dire, in cui noi controlliamo una ragazzina, quindi comunque un elemento di fragilità, no, all'interno del gioco, che credo che sia sempre una delle parti fondamentali per quanto riguarda la definizione di survival horror, ovviamente. Sì. Survival horror, esatto, la tensione, no, che poi si genera da questo. E quindi un gioco che era diviso in due fasi, una parte zeldiana come spostamento, quindi con visore dall'alto e movimenti liberi, diciamo, sulla mappa, e poi dei combattimenti a schermata praticamente fissa con sequenze action. Ecco, diciamo che questo è più un survival horror di più tangibile, diciamo, come dal punto di vista della tensione. E poi penso che arriviamo su qualcosa di più conosciuto, perché andremo al 1988, dove esce un videogioco, al 1989 scusate, dove esce un videogioco molto più famoso chiamato Project Firestart, che dici Luigi, forse può avere qualche cosa di ancora più horror o spaventoso comunque in generale. Sì, allora premetto che non so voi, ma quando giocavo al tempo con le macchine Commodore, parlo del VIC-20, 64 prima e poi con l'Amiga in particolare, però forse il 64, diciamo, già la rappresentazione su schermo e il processore SID per quanto riguarda la musica e tutto quello che era, quindi l'immaginario che proiettavamo nella macchina per quanto riguarda proprio il videogioco in sé come era rappresentato su schermo, era già inquietante di sé. Quindi non è che sentire una canzoncina che proveniva da Commodore 64 ti mettevi in una condizione beata, perché aveva qualcosa di fortemente stridente e già poco piacevole in sé, dal punto di vista proprio dell'impasto sonoro, della sonorità. Quindi il SID era effettivamente ipnotico, un po' come sì, era ipnotico, era come musicalità. Sì, era qualcosa che non dimenticavi facilmente, perché ti abituava a un'idea di computer e in qualche modo di digitale, però questo cosa parliamo di analogico, che era quasi paradigmatico. Allora cosa succedeva? Succede che quando ti capitava un gioco che adesso definiamo survival horror, ma comunque che era un gioco di terrore, fondamentalmente usava delle musiche, degli artifici che non si discostavano da quelli che erano conosciuti da tutti. Cioè la musica era comunque una musica che aveva quell'impasto sonoro, quel timbro tipico del SID del Commodore 64, la grafica era quella, quindi non è che potevi sfuggire da dettami, diciamo, ben diversi. Quindi cosa succede? Succede che si giocava molto in casa, ecco, si giocava con alcuni elementi che però a livello cosmetico rimandavano quella sorta di sapore. Quando invece il survival horror ovviamente è passato a ingigantirsi da un punto di vista della rappresentazione, lì si può già cominciare a parlare, diciamo, di errore, di terrore. Quindi la rappresentazione su schermo diviene molto più vicina a quella reale, gli attimi, diciamo, di suspense, di sorpresa sono più vicini ai tempi cinematografici, eccetera. Ma quello che voglio dire è Project Firestart cominciava a mettere questi elementi. Project Firestart, ricordiamo, è un videogioco che uscì praticamente per Commodore 64 nell'89 e solo su floppy, se non ricordo male, tra l'altro, no? C'era anche su cassetta. Ah, c'era anche su mi cassetta, mi ricordo, perché o forse io ho giocato una compilation che lo prendeva anche su cassetta, quindi ce l'ho giocato su cassetta fondamentalmente. E cosa aveva? La cosa bella era, vabbè, ispirazione Alien, quindi un'astronave, equipaggio morto, andavi ad esplorare questi ambienti bidimensionalmente, c'erano degli ascensori e altro. Non era al buio non c'erano quegli elementi che dovrebbero denotare, diciamo, la paura, il mistero, il terrore. C'era però questo alieno, che aveva le fattezze molto dell'alien che conosciamo noi, che poteva comparire da un momento all'altro. E la rappresentazione sullo schermo era violenta, nel senso non si era visto fino allora un gioco dove i corpi erano smembrati, i pezzi, diciamo, anche se erano statici, dei fondali, equipaggio martoriato, scritte col sangue sui muri, già ci avvicinavamo a quella drammaticità. Non c'erano, ecco, degli elementi che ti facevano pensare è solo, diciamo, un videogioco da un punto di vista proprio audio, video, e cioè, tendeva a trascendere, ecco, Project Firestart, l'aspetto di costruire un'atmosfera molto più densa e molto più strutturata, insomma, anche sì, in questo senso, anche seria per certi versi, quindi non deformata. Non c'erano quelle rappresentazioni tondeggianti o insomma, sai, il gioco giapponese. Sì, anche l'incedere del protagonista aveva un'animazione credibile, non era lo scatto dei due frame che ti poteva dare un qualcosa di poco immersivo, diciamo. C'erano anche dei tempi di l'incedere era non era da arcade, per dire, era un'esperienza effettivamente diversa. Poi, si percepiva diversamente. Cioè, la cosa bella, Gianluca, era il fatto anche del avevi delle munizioni che erano limitate, non tutti i nemici morivano, dovevi cambiare arma, quindi c'era questo senso di vulnerabilità. Ecco, gli elementi del super horror giocati bene affinché la rappresentazione fosse vicina al nostro senso dell'orrore e del terrore. Ecco perché è importante ricordarlo, Project Firestart, da questo punto di vista. Infatti noi abbiamo fatto un podcast qualche tempo fa per dietrologia videoludica, in cui Marpo diceva una cosa molto interessante, mi pare fosse stato lui, cioè che, appunto, come dicevamo anche prima, l'elemento di fragilità, di le munizioni che finiscono, qualche cosa che non riesci a individuare, non riesci a capire, è sempre il pungolo che poi crea effettivamente la paura e il terrore da sempre, praticamente, anche nei videogiochi. E faceva l'esempio invece di molti videogiochi moderni, come i nuovi Resident Evil, che hanno rinunciato poi a questo, mettendoci nei panni di soldati ultra forti, insomma, estremamente potenti e capaci di uccidere, che alla fine sono loro i predatori dei vari mostri, e che questo, appunto, riduce in maniera sostanziale poi l'effetto di paura e di ansia. Sì. Esatto. Cristiano, io, se sei ancora qui con noi, vorrei chiedere. Ci sono, stavo ascoltando con interesse, perché questo Project Firestar lo stavo un pochino semi recuperando proprio negli ultimi mesi, guarda caso, perché stavo un po' guardando la roba su Commodore 64 che mi era sfuggita ai tempi. Anche perché ricordiamo che tu c'hai un blog in cui ogni tanto recensisci delle avventure, diciamo, di altri tempi, no? Sì, vabbè, New Pix Corlo, diciamo così. Diciamo, dai. No, vabbè, innanzitutto sembra quasi una specie, cioè quasi fosse un... la concezione forse di adesso di action adventure, quasi più di survival horror, più o meno, no? Era molto interessante. Fra l'altro, due cose volevo dire. La prima è che, come ha detto Luigi, si rifaceva un po' a quello stile lì di Alien, no? Come si chiama l'autore? H.R. Giga, credo di averlo pronunciato bene. Spero di sì. Non voglio correggerti. Che insomma, volevo dire anche che l'astronave in cui si gioca in Project Firestar si chiama Prometheus. Ora non so se questa è una coincidenza, però così tanto per dire. E la seconda cosa è che questo gioco è della Dynamics, che più o meno conosco per le avventure grafiche, visto che è un po' quello il mio campo, che è stato appunto l'autore Jeff Tanner, che ha fatto anche un gioco che si chiama Rise of the Dragon, che è del 90, che pure aveva un pochino queste atmosfere, cioè era un'avventura grafica, chiaramente era sci-fi, era sci-fi, però aveva comunque questa specie di un po' di retrogusto, un po' horror, questi mostri, no? Queste cose un po' inquietanti, no? Quindi sì, forse non hanno poi del tutto abbandonato, se ci pensi poi questo Rise of the Dragon è dell'anno successivo, non è che parliamo di 5 anni dopo, nonostante poi le macchine siano diverse, su una generazione successiva, esatto, sì. Ho capito. In effetti sì, quello è un altro... Vabbè, poi su Amiga si svilupperà tutto un altro tipo di horror, diciamo. Ma rimanendo su Commodore 64, poi possiamo parlare anche di un titolo probabilmente che le sue tematiche horror le prendeva dal cinema, ovvero Friday the 13th, credo si pronunci, sì. Giusto Luigi? Sì. Esatto. E, che insomma ci abbandona lo sci-fi e ci porta, diciamo, su qualche cosa di molto più concreto e comprensibile, diciamo, sì, anche perché conosciuto, sì, al cinema, giusto? Sì, c'è. Io mi ricordo che questo era il mio videogioco del terrore. Perché c'è non la sinfonia di Beethoven che andava in loop. Il generatore di suoni del Commodore 64, il SID, che era tremendo, e c'erano dei personaggi fondamentalmente che ognuno poteva nascondere il Jason della situazione, stavano a noi tentare di cercare di capire chi fosse e in qualche modo farlo fuori. La cosa bella era che, per quello che mi ricordo, il Jason era, c'erano diversi personaggi, ognuno con una propria storia, cronistoria e un proprio background, si potevano comandare quindi questi vari personaggi. Era uno scorrimento, diciamo, isometrico, sempre con dei fondali tutto bidimensionale, però aveva quell'effetto, certo, di tridimensionalità. Quindi c'erano più ambienti: il granaio, la chiesa, l'esterno, il cimitero, devo una sensazione di libertà. Poi le armi, l'ascia, diciamo, le accette, la motosega e tutto quanto. Quando il Jason della situazione, che era travestito da uno di questi personaggi, cercava di attaccare il giocatore, cominciava ad inseguirlo all'interno di questo scenario. A volte, questa era la cosa secondo me più tremenda, non so per quale motivo, quando cominciava ad attaccare c'era un urlo che interrompeva completamente l'azione, ed era agghiacciante come urlo, perché immagino in qualunque zona tu ti trovassi, qualunque zona fondamentalmente, quindi a volte, ti assaliva anche l'urlo. A volte appariva anche, adesso non me lo ricordo bene quando, dove e perché, ma ho terrore a andarlo a rivedere, appariva in primo piano il volto dell'innominabile. Ma era qualcosa che magari adesso lo vado a rivedere e fa ridere, però al tempo, per un ragazzino di 8-9 anni, era qualcosa di assolutamente non proponibile. Poi non c'erano, ecco, ripeto, non c'erano scherzi, non c'era quel senso, era proprio violento, non c'era ironia, diciamo, era tutto così. Ma guarda, in effetti, se noi pensiamo a quando eravamo piccolini, noi eravamo a contatto con un medium che era assolutamente qualcosa di incontrollato, no? Sì. Allora magari anche di fronte ai nostri genitori davamo l'apparenza di giocare a qualcosa di estremamente innocente, perché poi la grafica dei videogiochi dell'epoca era molto, che vuoi, era quella che era, pixellosa, poco definita, certo. Però in realtà c'erano delle situazioni, come sicuramente anche questa qui di Friday the 13th, che potevano effettivamente traumatizzarti. Io mi spaventavo per molto meno, mi spaventavo per gli occhioni del teschio di Dragon School in su Commodore 64, che semplicemente ti guardavano. Sì, sì. Però ecco, agli occhi di un bambino, che forse è anche una fantasia molto più frizzante, tutte queste scene vengono rielaborate in un altro modo, e quindi diventano probabilmente estremamente terrificanti. Sì, sì, assolutamente. Ma io adoravo questo gioco perché poi c'era la possibilità di entrare e uscire dagli ambienti. I personaggi, se entravano dentro una porta, tu cambiavi stanza, lo ritrovavi in un'altra parte. Quindi c'era anche una sorta di posso chiamarla avvicinamento a quello che è lo spostamento nella realtà del personaggio fisico. Non ci scordiamo invece che gli ambienti solitamente dei videogiochi a quel tempo erano o molto statici o puntavano su un aspetto soltanto del terrore, chiamiamolo così, e su quello si basava. Invece Verdi 13 per me fu qualcosa di innovativo, era terrore. Sì, sì, sì, sicuramente. Vabbè, vi invito comunque, poi mettiamo nelle note dell'episodio. Sì, sì, sì, mettiamo almeno un video di YouTube, insomma. Sì, sì, io ho terrore ancora di questa cosa qui. I traumi infantili. Ok, ok. Beh, diciamo che per quanto riguarda la generazione 8-bit, al di là di... per quanto riguarda il mondo computer, quantomeno diciamo che probabilmente sono stati questi i videogiochi più significativi. Su Nintendo NES chiaramente va segnalato un gioco chiamato Sweet Home, che viene considerato l'ispiratore di Resident Evil. Praticamente il Shinji Mikami sostiene che sia stato influenzato più da questo gioco che da Alone in the Dark, cosa molto dibattuta, nel senso che diciamo Alone in the Dark sembra effettivamente un prototipo quasi di Alone in the Dark in tante cose, ma come ambientazione, come la presenza di questa casa da esplorare, tutto quanto il resto sicuramente ci avvicina anche in questo caso a Resident Evil. Poi, come dice Carlo Sant'Agostino, lo ascolteremo anche più tardi, certe cose vengono inventate al momento giusto, a prescindere che ci siano oppure che non ci siano degli ispiratori. Comunque sì, anche un po' quello, perché poi Resident Evil sembra veramente Alone in the Dark svecchiato, no? In qualche modo, con gli zombie, cioè, con gli zombie, sì, perché se vogliamo poi Alone in the Dark 2 ce li ha gli zombie, quindi in realtà poi te lo racconto meglio, vabbè, te lo dico. Alone in the Dark ha anche degli zombie, cioè durante il gioco di Alone in the Dark tu qualche zombie ogni tanto lo incontri, perché praticamente l'autore del gioco era un appassionato di film horror e di film di zombie, cioè lui era un super fan dell'Alba dei Morti Viventi, quindi sì, mi sembra Bruno Bonelli il produttore, mi sembra no, proprio Frederick Reynal. Ah, proprio Reynal, ah, okay. Sì. Forse anche Bruno Bonnella, può darsi. Sì. Però insomma lui voleva fare addirittura un gioco soltanto con gli zombie, poi ci mise dentro altri mostri, però con qualche presenza zombesca ha voluto mantenerla in ogni caso. Beh, comunque Resident Evil è di qualche annetto dopo, quindi non lo so se sembra sinceramente più plausibile che qualcuno abbia visto la Alone in the Dark e abbia fatto Resident Evil, però Mikami dice che non ha neanche giocato, per cui non lo so. Per cui non ci crede nessuno. Beh, che poi Sweet Home, ecco, che non ho giocato, mi risulta essere più un gioco di ruolo che un... È un gioco di ruolo, sì. Esatto, più prescrivibile a quel genere. No, vabbè, non lo so. Facciamo finta di crederci. Sì, dunque, poi vabbè, poi siamo passati diciamo all'epoca 16-bit, l'horror si è un po' trasformato, più che altro ha cominciato a poter attingere a quello che possiamo chiamare diciamo fotorealismo, no? Quindi parola grossissima per quei tempi comunque, però in alcuni videogiochi si è puntato molto, penso soprattutto alle avventure della Horrorsoft come Elvira, la famosissima Elvira che tutti ricordano per il seno prosperoso, però in realtà era anche un videogioco horror di un certo successo, e lì insomma c'erano un po' di scene che proprio ti colpivano per il sangue, per la definizione molto più elevata dei mostri. Non so se voi ci avete mai giocato a titoli del genere. Luigi, tu forse... Sì, ho giocato e mi piaceva moltissimo il fatto che si cominciava a dare una sorta di, diciamo, di ritorno tridimensionale e al contempo anche di elevato graficamente, da farti avvicinare a quelle che erano le fatidiche copertine dei videogiochi, no? Che sì, infatti, le vedevamo in un certo modo, ma poi il gioco ovviamente lasciava sempre a desiderare. Ecco, Elvira invece mi piaceva proprio per questo aspetto qui, si avvicinava tanto all'immaginario che evocava già la copertina, la cover del gioco stesso, ed è un modo di sfruttare secondo me il discorso horror abbastanza sensato, perché oddio, se non ricordo male aveva una esplorazione fatta al labirinto tridimensionale, ti potevi muovere sì. All'interno diciamo di un labirinto, non era esattamente il passo come ce lo immaginiamo adesso, diciamo frame per frame, quindi la camminata no, ordinaria, assolutamente. Andava a schermate, però ricordava molto i vari giochi di ruolo dell'epoca magari, no? Sì, come sì, tipo di spostamento, anche se poi in effetti il gioco non era... era molto diverso, era qualcosa tipo l'Eye of the Beholder, se non sbaglio. Esatto, c'era qualcosa esatto del genere, però aveva un suo immaginario forte, mi piaceva. Ovviamente quando parliamo di horror, di horror in generale, dobbiamo sempre fare riferimento ai mostri che caratterizzano un certo tipo di ambiente da evocare. Ecco, quello che mi sento di dire è che se Alone in the Dark era un putpourri dove il mostro era la concezione di mostro che voleva essere messa in risalto, quindi poteva essere una ameba, poteva essere una sorta di medusa gigante, un cavaliere che ti attacca, o uno zombie, come dicevi tu prima, ovviamente si è andato poi verso una specializzazione di quella che è la mostrologia, la dico fra virgolette, che caratterizza il survival horror, e questo sicuramente ha reso più interessante la caratterizzazione e il discorso sul contraddistinguere un gioco da un altro, mentre come dicevate voi, come diceva anche Carlo Sant'Agostino, è chiaro che all'inizio, quando si entra all'interno di un discorso culturale nuovo e si vuole dare l'abbrivio a un aspetto che poi diventa seminale, si gioca con i cliché di genere. E quindi in qualche modo si fa il passo più lungo della gamba, o si perde un po' la direzione artistica su dove si vuole andare a toccare. Perché se ne va a leggere i libri di Lovecraft, sì, ecco, io non penso che faccia un putpourri Lovecraft sul suo racconto di tutti quei mostri che compaiono in Alone in the Dark. Ma in realtà no. Sì, in effetti sono d'accordo con te, anche perché poi Lovecraft era uno che dei mostri descriveva estremamente poco, no? Sì. Quindi chiaramente chi ha basato un'opera videoludica o altro su un racconto di Lovecraft ha dovuto dare forma con una certa libertà, tra l'altro, a quello che Lovecraft descriveva per sommi capi poi nei vari racconti. Sì, sì. Si sapeva solo che era orribile, empio. Sì, esatto. Io mi ricordo, no, il mostro che strisciava sopra una montagna, però sto mostro strisciava sopra la montagna e basta, cioè, quindi ti immagini qualcosa che striscia, però poi il resto, boh, c'aveva tentacoli, c'aveva qualcosa, chi lo sa. Quindi, niente, molto. Il bello è proprio questo, appunto, il terrore che non riesci a definire. E secondo me in questo, faccio un piccolo off topic, È molto bella l'avventura The Last Door, che è basata su Lovecraft, ma in realtà poi di Lovecraft, cioè, prende proprio la non definizione di ciò che si vede, perché è fatto da pixel talmente grossi che non sai assolutamente che cosa stai guardando, quindi devi metterci tu il dettaglio, è molto, sì, è molto bello per questo. Comunque, poi, avanzando ancora nella storia dei videogiochi, si arriva al 1992, che in una data non ben precisata, a dire il vero, tra agosto 1992 e settembre-ottobre 1992, è stato pubblicato Alone in the Dark. Non sono riuscito a trovare una data ufficiale di pubblicazione, non so per quale motivo, ma comunque le prime recensioni, diciamo, risalgono a questo periodo. Che cosa accadeva nel 1992 in quel periodo? Beh, non so voi, ma forse anche voi, io avevo un'amiga, penso forse anche Luigi, sì, in quel periodo soltanto. E tu, Cristiano, come eri equipaggiato? Io ero ancora un po' col Commodore 64 e poi col PC, perché già avevo scoperto da 3-4 anni le meravigliose gioie della LucasArts, lo film, anzi. Quindi, LucasFilm all'epoca, sì. Sì, fra l'altro io Alone in the Dark non l'ho giocato subito, l'ho recuperato successivamente, non molto dopo, però l'ho giocato in ritardo, giocai prima al secondo, ma mo ci arriviamo quando ci arriveremo nel palo. Comunque ero PCista, ecco, non è, l'amica l'ho startata, purtroppo è successo. Ho capito, mannaggia. Cosa, brutta cosa. Sì, sì, lo so, mi sono perso un sacco di cose, è vero, cioè, vabbè. Comunque, sì, perché diciamo questo? Perché chiaramente Alone in the Dark arriva in un momento in cui siamo assolutamente non abituati a roba del genere. È molto interessante quello che ascolteremo più avanti, ovvero la classica retro rassegna stampa di archeologia videoludica, in cui Morgan ci dice che nel numero di novembre del 1992, ovviamente, di The Games Machine viene recensito Alone in the Dark. Fin qui niente di strano, ma fa più specie vedere quali siano gli altri videogiochi presenti su quel numero. E lo stesso appunto è presente, per fare un esempio, no, l'anteprima di Uridium 2 contemporaneamente a questa recensione di Alone in the Dark. A pensarci oggi, sembra quasi di parlare di due videogiochi di generazioni diverse. Cristiano, visto che tu non sei amichista, L'Urisimo 2 è uno sparatutto. Classico sparatutto bidimensionale, insomma, classico, insomma, diciamo. Quindi, insomma, due generazioni assolutamente contrastanti quasi, no? Cioè non due generazioni, due modi di pensare il videogioco totalmente distanti e di una diversità sorprendente. E all'epoca questo era anche inevitabile, perché i PC chiaramente erano un sistema dinamico che si potevano permettere processori veloci, diciamo relativamente veloci per il tempo, mentre l'Amiga era qualcosa di statico, risalente ancora a uno standard del 1985, nonostante coinvolgesse almeno in Italia e in Europa la maggior parte dei videogiocatori. E si andava tutti quanti, alla fine tutti quanti pensavano in quel periodo, correggetemi insomma se sbaglio, soprattutto ai picchiaduro, ai shoot 'em up, un po' alle avventure grafiche sicuramente, perché c'era stato appunto c'era una forte Lucasfilm, però ecco, avvertivate anche voi almeno tu Luigi, insomma, che forse avevi vissuto entrambe le generazioni, una discrepanza tra questi due mondi che si trovano improvvisamente a contatto? Sì, indubbiamente. Fai bene proprio secondo me a ricordare da cosa era caratterizzato in prevalenza il mercato consumer dei videogiochi, sia arcade, che allora tiravano tanto, tirano moltissimo, certo. Sì, che ovviamente il gioco da casa, quello casalingo, era fondamentalmente sì, beat 'em up, picchiaduro, diciamo che erano quelli generi che le macchine permettevano di performare e che erano entrati nell'immaginario come i paradigmi del videogioco all'avanguardia. Il picchiaduro soprattutto, diciamo che abbandonava gli stilemi della Air Kung Fu, International Karate Plus, delle varie macchine Commodore, del 64 in particolare, e con l'avvento poi di Street Fighter, ovviamente siamo di Street Fighter 2 in particolare, siamo lì come punto di riferimento anche per i videogiochi sviluppati in Italia. Abbiamo parlato nella puntata, diciamo, sui videogiochi sviluppati in Italia, si tendeva a creare soprattutto l'aspetto di gioco del picchiaduro e non quello ovviamente del survival horror come lo intendiamo, certo, come era inteso al tempo. Però c'è comunque da dire che erano anche momenti in cui il periodo in cui si è cominciato a sperimentare il gioco in 3D, quindi i mondi non possono non incontrarsi fra di loro se non andiamo a rilevare questo aspetto qui. C'è stato presente Reynal, che ha creato da un punto di vista sia di design che di motore eccetera Alone in the Dark, era anche una persona che aveva già sperimentato con il 3D, il gioco si chiamasse Alpha Wave se non sbaglio, esatto, sì. Quindi aveva già un'idea di quelli che erano gli environments, tutto quello che riguardava il mondo 3D, e soprattutto per la Infogrames aveva cominciato a sviluppare anche un motore, un tool proprietario, in modo che potesse gestire l'aspetto dimensionale. Quindi puoi capire che quando si comincia a parlare di 3D e di ammetterli, di implementare un motore per un gioco dedicato, va a cozzare invece con gli stilemi che erano già ben consolidati al tempo, anche a livello tecnologico oltre che estetico, e parlo appunto di beat 'em up, picchiaduro e sì, infatti. Quindi Alone in the Dark si iscriveva al tempo, per chi lo vedeva, come qualcosa di molto grezzo. Cioè vederlo su schermo sembrava quasi un esperimento da strappare un sorriso per il tentativo che avevano portato avanti, parlo a livello estetico come di impatto, poi sì, anche per la goffaggine, no, dei movimenti, era goffo, era lento e comunque era io le definisco un gioco sciancato, cioè aveva qualcosa di assolutamente disabile, vorrei definirlo così, nel portare avanti il suo discorso di terrore, come prendete a fare. Io non penso che Alone in the Dark abbia spaventato più di tanto il giocatore, era più la bellezza delle inquadrature, delle scene, delle camere, piuttosto che la paura in sé. Ecco, era forse più giocata sull'ansia. Abbastanza, ti dico la verità, mi ha terrorizzato abbastanza. Dire, sull'ansia si gioca più che il terrore. Sì, sì, sì. Sai cosa c'è dietro l'angolo? Aspettare, perché ovviamente si sfrutta te lo permette la grafica, cinema, certo. Tutto, però non il terrore in sé, non c'è sangue. Non c'è, no, infatti, l'elemento, c'è quello sicuramente. Ecco, raccapricciante. Che invece, come adesso è stato sviluppato il videogioco, è presente in maniera abbondante. Oggi, se non c'è l'elemento raccapricciante, non esiste, non puoi chiamarlo survival horror. Ho capito, infatti questa è una riflessione molto interessante. Però visto che hai nominato Frédéric Reynal, lanciamo la scheda preregistrata di Roberto Bertoni, così facciamo contento anche Cristiano, che non fa Calavera Caffè insieme a lui da un sacco di tempo e quindi sentirà la mancanza. Vai con la scheda. Amici di Archeologia Videoludica, bentornati. Eccomi ancora in questo piccolo spazio in cui tendo o cerco di presentare un po' quello che è l'autore principale o la figura di riferimento della puntata. Diciamo che la mia, come sempre, sarà una disamina prettamente, se vogliamo, temporale, anagrafica, nel senso, cercherò di dare qualche linea su quella che è la biografia del personaggio, magari con qualche nota di interesse o qualche curiosità. Prima di iniziare però un caloroso saluto a tutti e la promessa è che ben presto potrete sentirmi nuovamente in spazi più allargati. Se questo può essere una buona cattiva notizia dipende un po' da voi. Diciamo che se trovo una cassetta di arance fuori dalla porta potrei capire che in qualche modo mi viene richiesto di mantenere questa mia prigione dorata all'interno in cui sono rinchiuso. Comunque, come avete probabilmente già avuto modo di conoscere, il protagonista della puntata è Alone in the Dark e più precisamente io vorrei parlarvi di Frédéric Reynal. Spero averlo pronunciato correttamente in quanto è un autore francese e la pronuncia non è magari così semplice come potrebbe sembrare. Frédéric Reynal è famoso soprattutto per due grandi motivi. Innanzitutto, diciamo che è nato nel 1966, quindi diciamo che non è neanche un così attempato sviluppatore di videogiochi come magari ci è capitato più spesso di vedere. Ed è noto per due lavori fondamentali. Uno appunto è Alone in the Dark, che è il protagonista di questa puntata, e il secondo titolo è Little Big Adventure, un titolo, o meglio una serie, di cui magari parleremo in futuro, che merita sicuramente la sua attenzione anche dal punto di vista ludico-avventuroso. Diciamo che l'inizio di Frédéric Reynal lo vede ben presto alle prese con i videogiochi. Pensate che dal 1979, quindi alla tenera età di 13 anni, provava a sviluppare alcuni giochi, fra cui Laser per la famosa ZX81. Da lì in avanti poi il nostro amico, il nostro programmatore francese, cerca di raffinare sempre più la sua tecnica, presentando diversi titoli con alterni successi. Un altro esempio può essere Robex 500, un titolo 83, si dica abbia venduto circa 80 copie. Allora, penso, spero che non sia la verità, però diciamo non esattamente un blockbuster. Però diciamo che tutte queste esperienze lo aiutano a pensare in grande, a pensare comunque ad ampliare quelli che sono i confini solitamente su cui si è già lo sviluppo. La sua è una mente, se vogliamo, già tridimensionale, tanto è vero che uno dei suoi titoli più famosi, almeno per inizi, è Alpha Waves del 1990, apre un po' alcuni confini nel mondo videoludico, sebbene bisogna sottolineare che non è, come viene riportato anche in altre fonti, il primo vero platform 3D, ma diciamo che porta soluzioni interessanti, o ancora meglio, porta alla grande massa quello che poteva essere un nuovo punto di riferimento. Alpha Waves poi è proprio importante per il titolo che lo vedrà protagonista, appunto quello Alone in the Dark del 92, di cui poi i miei colleghi e amici parleranno in maniera più approfondita, che in qualche modo segna il passo nel mondo dei videogiochi, sia per quanto riguarda il survival horror, sia per una, diciamo, direzione cinematografica. Purtroppo in quest'epoca il nostro Frédéric si trova alle prese con due notizie, una positiva, se vogliamo, che è quella che dà un po' un tono rosa a questa rubrica, e una un po' meno positiva dal punto di vista lavorativo. Partiamo magari dal punto di vista del rosa, se vogliamo, appunto per alleggerire un po' la questione. Infatti dovete sapere che durante lo sviluppo di Alone in the Dark conosce quella che poi sarà la sua futura moglie, adesso anche qui spero che la pronuncia mi assista. Parliamo di Yael Barroz. Oya Elba Ross, non lo so, scusatemi, ma veramente non saprei pronunciarla in maniera migliore. Anche lei è programmatrice, o meglio ancora artista e grafica del gioco, che insieme a lui gli dà luce un figlio, addirittura prima del rilascio di Alone in the Dark. Se dal punto di vista romantico affettuoso, diciamo che appunto il nostro Federico si è trovato coinvolto in una serie di circostanze fortunate, dal punto di vista lavorativo purtroppo non ha avuto la stessa fortuna, perché sebbene il successo e soprattutto la visione che l'ha saputo portare in Alone in the Dark, non ha potuto dar seguito al suo lavoro, se non in parte col secondo capitolo, in quanto a causa di dissidi sembrerebbe all'interno di Infogrames fu costretto a abbandonare la baracca a burattini e dirigersi in altri lidi. Noi possiamo sicuramente definirci fortunati, perché se a fronte di un seguito che purtroppo magari i miei amici sto provando a spiegarlo meglio non ha saputo rinverdire i fasti del primo capitolo, il nostro Reynal ha avuto la possibilità di sviluppare con una sua nuova software house, Adeline Software International, dei prodotti che sicuramente sono entrati nella storia dei videogiochi, il già citato Little Big Adventure, Time Commando e Little Big Adventure 2. Peraltro, giusto per aprire una parentesi su un altro titolo, ha partecipato anche alla programmazione di un altro famoso sequel, che è Fade to Black, seguito di quel flashback sempre nato in terra transalpina. Da qui in avanti diciamo che lo smalto un po' nei tempi migliori si perde, in quanto iniziano a girare gli sviluppi di collaborazioni con diverse software house, parliamo di Eidos, Ubisoft, di Ludoid, no, lui stesso fondata, ma nessuno di queste collaborazioni diciamo che segna il passo con un nuovo successo, un nuovo ritorno sulla cresta dell'onda per questo sviluppatore, che non ha saputo riciclarsi magari come su altri colleghi più famosi. E penso sempre come riferimento a Sid Meier, che in qualche modo è riuscito a affrontare la marea del tempo in maniera sicuramente migliore. E la cosa, la notizia positiva è, diciamo che è quella che vede Reynal ancora allo sviluppo, ancora al lavoro, tant'è vero che ha rilasciato un titolo nel 2011 con la sua società Ludoid. Il titolo in questione si chiama Box On, niente in particolare, o almeno simpatico, ma non è, diciamo, non certamente dimenticabile. E cosa che vede speranzoso, diciamo, orde di avventurieri e di giocatori, si vocifera di una Little Big Adventure 3, sebbene i diritti non siano al momento ancora disponibili, e lascia tutto, diciamo, un po' ancora nel stato sospeso, in quel limbo che possiamo definire quasi vaporware. In sostanza stiamo parlando di un programmatore, di un game designer che seppe cogliere il momento della rivoluzione 3D, come molti altri negli stessi anni, parliamo anche ad esempio di Resident Evil, che in qualche modo ha avuto lo stesso tipo di impatto, comunque ha saputo cogliere quella che è la trasformazione tecnologica in atto per dar vita a un titolo che probabilmente viene ricordato ben al di là di quelli che sono i suoi meriti di gameplay e ludici, ma più che altro per appunto l'impatto che ha avuto sulla visione e sull'immaginario dei videogiocatori dell'epoca. Quindi ascriviamo sicuramente alla sua positività, quindi ai punti di forza, la sua capacità di essere nel tempo, magari constatiamo con un piccolo valore di tristezza che questa capacità nel tempo, tolto appunto di Adventure, che anche lì utilizzava soluzioni particolari in un contesto avventuroso solitamente adagiato su altri cliché, diciamo che non ha saputo riciclarsi nel tempo, comunque mantenere questa visionarietà che gli avrebbero permesso di in qualche modo essere sempre sulla cresta dell'onda. Questo era per dare un po' quello, diciamo, gli spunti essenziali di questo autore, che comunque potete trovare con riferimenti a interviste più che altro in francese o anche su Wikipedia per quanto riguarda sia la versione inglese che italiana, con informazioni sostanzialmente simili a quelle che vi ho riportato. E l'appuntamento è alla prossima avventura, alla prossima chiacchierata insieme, sperando appunto di poter intrattenermi con voi più a lungo di quanto è successo in questa prima fase dell'anno. Un abbraccio a tutti, un saluto al mitico sempre Simone Pizzi, colui che tutti veneriamo, un saluto anche, perdonatemi se colgo solo loro l'occasione per farlo, a Paul for Jones, che sebbene ci ha abbandonato è sempre ai nostri cuori, e un saluto a tutta la ciurma e di buona continuazione. Ciao archeologici! Bene, ringraziamo Roberto Bertoni per la sua fantastica e solita scheda di presentazione e descrizione dell'autore, e quindi arriviamo finalmente al primo famosissimo groundbreaking, direbbero l'inglese, Alone in the Dark. E come è nato, insomma, e che cosa è stato, ce lo racconta appunto il nostro Cristiano Caliendo. Ciao Cristiano, di nuovo. Cioè, sono sempre stato qua, me ne sono andato Gianluca. No, comunque sì. Io vado un pochino a memoria, perché non è che adesso ricordo benissimo tutti i passaggi. Comunque in realtà il gioco si doveva chiamare inizialmente In the Dark soltanto, non Alone in the Dark, ed era un'idea di Bruno Bonnell, che è un poi stato il produttore della serie e cofondatore della Infogrames. Quindi lui aveva questa idea. Perché In the Dark? Perché in realtà nel gioco, che poi, se ricordate, il gioco finale In the Dark, come fra l'altro dirà anche nella prossima rubrica Sant'Agostino, non c'era niente, cioè non era poi in c'è una sezione alla fine praticamente in cui c'hai una specie di torcia, se non ricordo male. Sì, però comunque illumini tutto, cioè non è che c'è proprio un momento, infatti, sai, che comunque c'è, devi farti largo nel buio, cose del genere. E quindi aveva questa idea di, perché voleva chiamare In the Dark, perché voleva fare che il posto si illuminasse con degli accendi, con dei fiammiferi, scusate, praticamente avevi tre fiammiferi, li dovevi accendere, e quindi aveva questo concept qui. Renal voleva partecipare, però non fu molto molto calcolato dal team, fin quando non era ancora nessuno, li ha dovuti proprio conquistare, perché lui fece vedere una qualcosa che stava lavorando a questo, come ha detto Luigi, a questo 3D, per un engine suo, che non credo sia poi l'engine che è stato usato per Alone in the Dark, perché non era un engine scopro, grazie alla prossima rubrica. E quindi niente, lui lo compiacque proprio, gli piacque tantissimo. Bruno Bonnell decise di farlo project leader, e quindi Renal prese in mano il progetto, e fra l'altro come si fece anche affiancare da Frank De Girolami, che è origine italiana, quindi questa, beh, c'è un po' di Italia, certo, qui, ci fa sempre piacere. È lo scrittore indipendente, e questa la pronuncio male, scusate, Hubert Chardot, che era poi Hubert Chardot, penso giustissimo l'hai pronunciato. Vabbè. Tu non sai il mio passato sui titoli francesi Calavera, vabbè. Che poi questo sceneggiatore era poi un mega fan di Lovecraft, quindi probabilmente a lui che dobbiamo la maggior parte dell'ispirazione, almeno a livello di sceneggiatura, non tanto come concept. E poi fu effettivamente poi abbandonata quell'idea dei fiammiferi in generale, forse anche per un discorso tecnico, qui non sono molto molto addentro alle questioni tecniche, quindi non saprei, però c'era questa situazione che in realtà si chiamava Alone in the Dark, ma poi in the Dark non c'era quasi nulla. Non c'è rimasto niente. Sì, però io devo dire che al contrario di Luigi, a me il gioco faceva molta paura. Devo dire, mi spaventava a morte, per cui sì, c'era questo utilizzo del 3D su sfondi bitmap, che fra l'altro è considerato la prima volta in cui i personaggi sono fatti in 3D, anche se sicuramente non è così, cioè sai, quando uno considera questa cosa, sì, poi ci sta sempre qualcuno che l'ha fatto prima, come al solito, cioè, però comunque c'è una curiosità molto simpatica su questa, sul fatto delle schermate 2D sui quali si muovono i personaggi 3D, perché praticamente l'artista che si è occupato dei fondali 2D era una certa Yal Barroz. Ho capito, che, cioè, quei gossip, esatto. Vuoi arrivare al gossip? Sì, ho fatto un master in gossip. E praticamente questa Yal Barroz ha cominciato come programmatrice, come collaboratrice appunto delle Infogram per questo videogioco, e poi ha avuto una liaison con Frederick Reynal, praticamente hanno, insomma, avuto un bimbo o una bimba, non so precisamente, e la gravidanza appunto ha avuto luogo durante lo sviluppo anche di Alone in the Dark. Quindi ho letto una pagina in cui diceva che Reynal in quel periodo era stressatissimo, perché praticamente ogni volta che squillava il telefono era sempre una brutta notizia, perché o c'era qualche problema della moglie che era andata in ospedale o cose del genere, sì. Oppure c'era qualche bug per il gioco, quindi qualcosa su cui lavorare e correggere, quindi era, cioè, non sapeva cosa fosse peggio, era veramente fuori di testa. Vabbè, scusami Cristiano, se no no, io, cioè, hai fatto bene, perché era una delle cose che poi volevo dire, perché in effetti mi sembra, cioè, dovrebbero stare ancora insieme questi due. Sì, può darsi, non perché, lo so, perché comunque ha collaborato anche a roba più recente di Renal, quindi immagino, poi c'è Nate Tanks, cioè sai Soul Bubbles per esempio per DS, non so se avete presente, anche lì no, collaborato. E, beh, comunque Renan è il nostro eroe, cioè il nerd che trova la gnocca, cioè il massimo. Cioè, ci piace tantissimo. Vabbè, comunque, a parte questo, ecco, per chiudere un po' il discorso sull'origine, quello che diceva prima, quello che dicevate prima sui personaggi, come dire, quelli un po' indifesi, no? Si sposa al massimo con Alone in the Dark, perché forse anche per un discorso di limiti tecnici, il protagonista Edward Carnby non ha una vera e propria faccia, come ha una specie di un accrocchio di poligoni. Sì, è una cosa veramente che adesso è inguardabile, specialmente poi se si avvicina un po' il personaggio alla telecamera, no? E infatti poi che cosa fecero per caratterizzarlo un po'? Ci misero questi baffoni enormi, che voi ricordate anche la genesi di Super Mario, no? Che ci hanno messo i baffoni per un discorso grafico iniziale. Almeno per sì, sì, ma infatti in entrambi i casi due soluzioni geniali. Cioè, sì, perché... sì, sì, e i baffoni sono proprio distintivi. Fra l'altro, se tu ci se, davano un aspetto a Carnby anche un po' British, non solo per com'era, sì, vestito, sì, no? Cioè, sembrava, sai, questa specie di lord così che di certo non sembrava un uomo d'azione. Poi era anche un po' longilineo, no? Cioè, non era un granché incriccato all'indietro. Sì, sì. Sì, no, ma era proprio l'antitesi proprio dell'eroe, no? Era molto indifeso. E poi il secondo personaggio giocabile è che, poi se vogliamo era uguale a Carnby, lo caratterizzavano con altri espedienti, non potevano mettere i baffoni, giustamente, e quindi avevano messo i capelli lunghi e gli occhiali. Quindi penso che per una donna forse era un po' più semplice, no? Caratterizzarla con l'uomo puntato sui baffoni. E l'inserimento infatti anche della donna è stato poi una mezza forzatura, perché l'anno che anticipo una cosa, il personaggio femminile è Emily Atwood, che è la sì, nipote del proprietario della villa in cui si svolge il gioco, villa che si chiama, non voglio sbagliarmi, perché Derceto, esatto, sì, no, sai perché Derceto? Perché in realtà c'è una mini citazione nel quarto episodio di Alone in the Dark, scusate, faccio un attimo un salto, che c'è un personaggio che si chiama Decerto e non Derceto. Allora io esco pazzo, ma perché non l'hanno chiamato Derceto? A questo punto di non si capisce la citazione. Vabbè, comunque Derceto, certo. E quindi hanno fatto questa protagonista, che pure lei era in difesa, cioè pure lei vestita, sai, con la gonna molto molto sì, lunga. Sì, sì, molto sexy, guarda. Sì, ma no, non si guardava due volte. E niente, questo è un po' la caratteristica poi principale, distintiva, proprio a livello grafico di Alone in the Dark, è il sistema di telecamera, ovviamente, no? Cioè il fatto aspetta, diciamo dopo. Ok. Diciamolo dopo, e se mi dai il là per lanciare la rubrica di Carlo Sant'Agostino, che ci racconta più in dettaglio, insomma, che cosa è questo engine di Alone in the Dark, nel caso dovesse esistere, perché c'è qualche dubbio su questo. Ascoltiamo Carlo Sant'Agostino. Perfetto, ci interrompiamo un attimo su quella che è la descrizione, il racconto del gioco di Alone in the Dark, perché non si può non parlare di Alone in the Dark senza parlare di cosa lo muove, quello che lo muove, insomma il come funziona, e più che altro, diciamo così, ecco l'aspetto strettamente visivo, quello che noi oggi, insomma, videogiocatori moderni chiameremmo il motore grafico. Poi insomma cerchiamo di approfondire un po' il discorso, e ovviamente per fare una cosa del genere non potevamo che non disturbare Carlo Sant'Agostino di archeologia informatica, e non soltanto, chiaramente, perché ciao Carlo. Ciao, ciao a tutti. Ti ringrazio per questa ospitata nell'archeologia videoludica, che per un attimo diventa archeologia informatica. Esatto, esatto. No, anche perché poi in realtà, qui vabbè, faccio io una promessa che torneremo a parlarne, perché in realtà di quello che è il discorso della grafica poligonale 3D e quindi tutta quella che è la storia anche di della computer grafica, esatto, della computer grafica oppure della grafica poligonale applicata ai videogiochi, insomma ne parleremo proprio su archeologia informatica piano piano, magari anche in più di un'occasione, perché magari condensare tutto, sì, come al solito per noi è molto complicato, insomma. Sì, allora sì. Noi insomma dicevamo in puntata il fatto che ha tanti meriti questo gioco, soprattutto il fatto di portare, diciamo, questa nuova impronta, questa nuova contaminazione anche dal punto di vista del linguaggio videoludico, il linguaggio cinematografico. Perché? Perché è un gioco che, diciamo, si basa sul 3D, sull'inquadratura, sulla... Sì, più che sul 3D, proprio sull'inquadratura. Perché in realtà il 3D, adesso smonto un attimino il mito, no, per carità, che il mito rimane di Adonis Dragon, lo ricordo bene perché all'epoca era proprio il periodo in cui lavoravo a TGM, quindi mi ricordo quando arrivò e le impressioni che derivarono da questo gioco, che fu sicuramente rivoluzionario, però per contro, non tanto per il 3D, sicuramente per l'applicazione del 3D, per quello che il 3D applicato in questo gioco ha voluto dire, nel senso, era la prima volta, appunto, come probabilmente come state discutendo, che c'era questa visione cinematografica del videogioco, perché anche finalmente la tecnologia iniziava a dare questa possibilità, anche se in realtà c'era stata la CinemaWare con e altre applicazioni, giochi che affrontavano questo coinvolgimento in 2D, però era la prima volta che si iniziava finalmente a applicare l'inquadratura utilizzando il 3D, non in maniera completa, perché in realtà in questo gioco il 3D è un poligono pieno applicato a sfondi fissi di immagini bitmap, ed è la prima volta, cioè nel senso, quelle immagini non prerenderizzate, proprio disegnate. Quelle dietro erano disegnate, okay, disegnate a mano, e sopra c'era un 3D a poligoni pieni classico. Okay. Non era particolarmente innovativo o potente dal punto di vista della programmazione. Ricordiamo che negli stessi anni Carmack stava sviluppando il suo motore che avrebbe portato poi al texture mapping in tempo reale, al Wolfenstein, Ultima Underworld, eccetera, cioè derivato da Ultima Underworld. Ricordiamo nel 92 succedevano quelle cose, quindi Ultima Underworld è del 91, in cui Carmack poi vede l'applicazione del 3D, però qua adesso andando già nella storia della computer grafica, comunque in quella puntata, ecco, che abbiamo promesso, diciamo. Esatto, il programmatore, adesso la mia pronuncia francese fa schifo peggio di quella inglese, quindi lasciate perdere come lo pronuncio, Frederick Reinal, questo è il programmatore della Infogrames che si occupa della realizzazione del 3D. Ecco, lasciatemi dire anche una cosa importante che non c'entra niente, ma mi piace inserirla qua giusto per l'occasione. Se andate su Wikipedia, Frederick Reinal viene presentato, dice, cioè, spiega che viene assegnato alla programmazione di Alone in the Dark perché aveva fatto un videogioco prima che si chiamava Alpha Waves nell'89, che era un videogioco completamente in 3D, sì, poligonale pieno, che su Wikipedia viene descritto come il primo platform con grafica 3D, poligoni pieni. Non è vero, ecco, nel senso, immaginavo che non fosse vero, se no non facevi la premessa. Facevo la premessa perché mi piaceva dire che spesso molta gente si affida a Wikipedia come fonte unica e totale di informazione. Cioè arrivi a Wikipedia e bam, ho trovato quello che cerco. No, bravo, io su questo sfondi una porta aperta con me. Infatti l'importante non è che non bisogna usare Wikipedia, per carità, non è, ma bisogna considerarla un punto di partenza per una ricerca. Esatto. Nel senso, tu vai su Wikipedia, trovi delle informazioni, poi dopo le devi verificare, controllare, certo, approfondire, devi fare una vera e propria ricerca. Non arrivi su Wikipedia, quello che c'è scritto è la realtà o è esatto al 100%. E per dimostrare questa cosa prendo questo, perché in realtà il primo gioco poligonale pieno platform game è molto molto molto precedente. Si tratta di iRobot dell'Atari del 1984 addirittura, quindi stiamo parlando proprio di quasi fermi tutti, proprio. 10 anni prima, quindi non, il fatto che venisse indicato nell'89 il gioco di Alpha Waves di Frederick Reinhall è completamente sbagliato come primo gioco platform in grafica poligonale piena. Detto questo, Frederick Reinhall arrivava da questo gioco Alpha Waves che comunque aveva una grafica poligonale piena, e quindi gli dicono, gli assegnano la lavorazione, la programmazione di questo gioco con un altro programmatore tra l'altro di origine italiana che è Frank De Girolami, che lo aiuta nella realizzazione di quello che è l'engine. Ecco, un'altra cosa da dire, tu hai chiamato motore, in realtà Alone in the Dark non usa un motore 3D come lo concepiamo adesso, cioè non sono delle routine che cos'è un motore 3D per semplificare? È un insieme di routine, quindi di, chiamiamole, pezzi di programma, che quindi è come se fossero una specie di linguaggio di programmazione che viene costruito per generare mondi. Esatto. Tridimensionali o anche bidimensionali nei quali poi avviene una determinata sequenza di gioco, no? Adesso siamo abituati a dire c'è il motore tot e su questo motore sono stati fatti il gioco X, Y, Z. Ecco, con Alone in the Dark non era così, si trattava semplicemente proprio del gioco programmato senza nessuna distinzione tra quello che era il programma del gioco e il motore che generava il 3D che noi vediamo nel gioco stesso. In realtà i motori 3D esistevano già, il primo è dell'87 ed è Freescape si chiamava, addirittura programmato su 8-bit, è stato programmato sull'Amstrad CPC, il primo modello di Freescape che era stato utilizzato per giochi della Darkside, Total Eclipse, Castle Master, non so se ne avete già parlato di questi giochi o no. No, vabbè, sì, ne abbiamo parlato nelle prime stagioni, ma poi ovviamente... per esempio, ecco, Total Eclipse potrebbe, che è dell'88, introduce già dei concetti che poi vediamo in... In Alone, anche se in Alone, come dicevamo, è la prima volta che avviene proprio questa visione di tipo cinematografico, certo. Perché Total Eclipse, Darkside, Castle Master basati su Freescape, se vuoi, sono più simili degli FPS, quindi con il 3D ma visto dalla persona che va in giro e gira, un po' più simili a quelli che poi sono Wolfenstein, Doom, eccetera, i giochi successivi. Mentre in Alone c'è questa proprio visione della scena, ok? Quindi hai un'inquadratura che, se vogliamo, era anche una trovata per ovviare a un limite tecnologico, cioè quello di avere una bella grafica, quindi con gli sfondi disegnati, quando il 3D che riuscivi a muovere, cioè i poligoni pieni, non erano molto realistici. Erano quindi, 20 in totale. Esatto, quindi riuscivi a ovviare a questo limite tecnico, certo. Ma dall'altra parte anche a dare questa inquadratura che ti poteva far immergere un po' di più nell'atmosfera di poi un gioco horror in questo caso, quindi che è importante in un gioco basato sull'horror è riuscire a generare questa sospensione della realtà e farti immedesimare, sì, completamente all'interno del, sì, ma anche la ricerca del tipo di inquadratura specifica a seconda, esatto, della situazione, quindi è chiaro che vabbè, l'elemento era estremamente ricercato da quel punto di vista. Però io e qui entriamo magari un po' più sul semitecnico, diciamo così, sì, per quello che diciamo che noi siamo abituati a considerare il fatto che anche negli anni 90, anche negli anni 80-90, diciamo molti produttori o magari molte software house costruivano praticamente i loro tools i loro tools di programmazione che potevano essere, che so, lo scam per la LucasArts, esatto, okay. O in 2D, ossia, e poi magari successivamente sono stati costruiti poi dei tool di sviluppo ovviamente anche per il mondo 3D. Questo che ci faceva, lo potevamo notare dal fatto che comunque i giochi sviluppati con un determinato tool o un determinato engine, anche se non è il termine giusto, è giusto, si riconoscevano, cioè nel senso, si riconoscevano, okay. Esatto. Allora in The Dark non è così. Non è così, però io mi domando, questo infatti la domanda che ti voglio fare è, poi ti colleghi magari a quello che vuoi dire tu, è perché tra il primo e il secondo in realtà c'è una grandissima somiglianza proprio spiccicata anche dell'interfaccia, sembra veramente quasi sviluppato perché, con lo stesso sì, in realtà sì, ma non è che hanno usato un motore, hanno semplicemente riciclato i pezzi di programma fatti dal primo. Okay, esatto, vabbè. No, okay. non è stato creato un motore per il videogioco, per Alone in the Dark specifico. No, non per il primo almeno, per il primo e il secondo. Dirti la verità, non so se poi dopo, crearono uno dopo, potrebbe essere, però questo non, in questo momento non lo so, dovrei ricercare. Però una curiosità interessante, e questa la possiamo rivelare, perché ovviamente possiamo considerare Alone in the Dark il precursore, diciamo il padre di tutti i survival horror che poi sono usciti successivamente, Resident Evil e roba di genere, anche soprattutto quelli giapponesi. Però, pur essendo molto più evoluti, usavano comunque di base la stessa tecnica, ossia il personaggio poligonale e gli sfondi. Sì, ma era, ecco, giusto per risponderti, diciamo che è vero che questo è il primo, no? Se vuoi, in termini temporale, ma era un po' una questione o così o niente, quindi in quel momento, quindi anche gli altri che hanno affrontato la stessa tipologia di gioco, cioè non è detto per assurdo che chi ha fatto altri giochi simili ad Alone in the Dark dopo abbia visto Alone in the Dark prima. Sì, questo sicuramente. Tu, quel tipo di gioco lì, in quel momento, in quello specifico periodo, lo potevi fare solo così. Cioè non permetteva al computer di generare interamente la scena in tre dimensioni. Quando poi la macchina ha permesso questo, tutti sono passati a quello, infatti, anche mantenendo l'inquadratura eccetera, ma gli dava anche la possibilità per esempio di muovere leggermente la camera, anche perché noi consideriamo una cosa, no? Il fatto che noi il primo Alone in the Dark ci ha dato una grandissima suggestione, ma se lo guardiamo oggi, che ovviamente è invecchiato malissimo, perché ovviamente il personaggio era a spigoli, cioè nel senso erano 10 poligoni in croce, tra l'altro senza texture, senza niente, no? però allora era talmente innovativo che veramente ci suggestionava questo tipo di... Sì, diciamo che in quel momento era innovativo, nel senso che era la prima volta che si vedeva il 3D applicato in quel modo, quindi con un'inquadratura di tipo cinematografico. È anche vero che comunque già all'epoca, e questo me lo ricordo, non era il massimo del 3D trovare, quindi comunque piacque come gioco, ma dal punto di vista tecnico non fu tutti fantastico, capito? Cioè, no, io un bel gioco. Io sono solo che col 386 faticavo, non faticava perché non ce la faceva il 386, intendiamoci, non faticava perché in realtà non era scritto così bene, nel senso che trovavi col 386 all'epoca delle cose in 3D fatte molto meglio di Alone in the Dark. Detto questo, Alone in the Dark rimase proprio più che altro per il tipo di gioco, quindi se vuoi quello che tu hai definito survival horror, che se vogliamo ha avuto dei precedenti, ma non in 3D, cioè in 2D, che poi dopo, vabbè, poi la definizione esatta di questo tipo di gioco è difficile. Sì, no, vabbè, chiaro. Lì c'è la famosa area grigia che poi rientra. Detto questo, anche dal punto di vista del mix della bitmap con la grafica vettoriale, in realtà c'era già dei precedenti, ma in 2D. Cioè era stata usata della grafica vettoriale bidimensionale su bitmap precedenti, sempre francesi, poi sempre francesi, bravissimo, quindi ci avevano colto su st'intuizione che io ho amato tantissimo, tra l'altro, perché era genialata, risparmiavi memoria e avevi il triplo delle animazioni, perché... esattamente. E Alone in the Dark è il primo che la usa, ma come ti ho detto non è che gli altri che ci sono stati dopo hanno copiato, se vuoi, da Donnie the Dark, era che si poteva far solo così, telecamera fissa e ci muovi sopra. Quando è uscito Resident Evil per la PlayStation, che già comunque era migliore, molto migliore, perché utilizzava il texture mapping sui poligoni, che poi tra l'altro è assurdo, no, il fatto Alone in the Dark, in realtà non c'è neanche nessun uso di luce dinamica, niente, quindi cioè in realtà non c'è il concetto di luce e ombra su quel gioco, no? È completamente... ma non potevi farlo. No, però è affascinante, no, sto fatto, cioè, non è che ci sei Alone in the Mansion, cioè, no, è proprio Alone in the Dark, dove sta il dark, cioè non c'era il dark. Sì, no? Cioè, sì, senso, più... comunque vabbè, rispetto a questa cosa che tu dici, io ti ho anche citato ovviamente durante la trasmissione, perché tu c'è una cosa che dici spesso, che hai detto in qualche puntata di Archeologia Informatica, dicendo c'è un momento nella storia dove quella particolare cosa deve essere sviluppata o viene sviluppata indipendentemente da chi la sviluppa prima, e non è detto che chi la sviluppa prima e chi la sviluppa poi successivamente da un'altra parte ci siano delle connessioni, cioè nel senso, niente, quel momento doveva nascere quella cosa. Esatto. E questa è la cosa affascinante, in effetti, perché poi lo stesso autore delle sentite di Evil dice no, io non manco lo conoscevo Alone in the Dark. Bravissimo, abbastanza improbabile come definizione, no? Però ci possiamo credere. Ma no, ci può stare, tranquillamente, ci può stare, ma magari non Resident Evil, ma i tanti altri che sono usciti in quel periodo, magari qualcuno non l'aveva mai visto, nel senso, ci può stare, perché in quel momento, se tu pensavi a un tipo di gioco così, lo potevi fare solo così. Cioè non c'era altro modo di farlo, tu potevi avere la telecamera fissa, pre-renderizzare o disegnare lo sfondo e muovere sopra i poligoni, perché potevi muovere pochi poligoni. Beh, lì l'unica vera grande abilità era il fatto che comunque il personaggio, nel muoversi nello sfondo pre-renderizzato, predisegnato, così com'era, rispettava perfettamente, cioè riuscivano a calcolare bene la prospettiva, no? Quindi non c'erano sbaffature, cioè in realtà anche perché se loro avevano bisogno, diciamo che l'ideatore, che in questo caso diventa simile al regista, no? È il primo momento dove, diciamo, l'ideatore del videogioco, il lavoro di chi pensa al videogioco diventa molto simile al regista cinematografico, certo, quando inquadra una scena. E in questo caso per avere l'atmosfera giusta doveva essere fatta in un determinato modo, e quindi da un punto di vista tecnico non avevi altre possibilità per farlo bene se non farlo così, quindi telecamera, tu dicevi al regista, il programmatore, mettiamo tra virgolette, diceva al regista tra virgolette, se vuoi questa scena la puoi fare solo con la telecamera fissa, e il regista si adattava, dove te la metto, quindi, te la metto bassa, così spalle, certo. E fai la scena, capito? No, questo è fantastico, questo era il concetto. Quindi vabbè, in buona sostanza di pregevole dal punto di pregevole innovativo dal punto di vista tecnico Alone in the Dark non nel senso, no, si può sfadare questo mito, insomma, che no è... infatti non portare, ma me lo ricordo bene, perché come ti dicevo, io in quegli anni lì proprio lavoravo in Xenia, lavoravo a TGM, mi ricordo il momento in cui arrivò Alone in the Dark. Lo vedemmo, lo giocammo tutti e piacque dal punto di vista, diciamo, del gioco, certo, ma non fu il gioco che tutti dicevano guarda che roba, che grafica, che 3D, che roba fantastica. Questo ci successe dopo, per esempio, invece con Wolfenstein, con Doom, quelli me li ricordo così, quelli sono giochi, o Descent per esempio, mi ricordo quando arrivava la prima volta Descent, lì sì che ci fu anche, diciamo, uno stupore dal punto di vista tecnico, se vuoi, della realizzazione puramente tecnica. Invece in Alone ci fu, diciamo, semplicemente tra virgolette, uno stupore dal punto di vista della tipologia di gioco, un'intuizione, ecco, che ha portato comunque a modo suo un'evoluzione comunque da quel punto di vista. Poi abbiamo detto non magari per merito, ma semplicemente perché comunque quella cosa in quel momento, appunto, diciamo, doveva accadere, ed è accaduta ovviamente con Alone in the Dark. Poi abbiamo visto tanti altri esperimenti, anche se poi magari poi quando parleremo in archeologia informatica di questa cosa, io dico c'erano già su Amiga, c'erano tantissimi, cioè c'erano Hunter per esempio, che era completamente in grafica poligonale, ce ne stavano erano completamente, hai detto giusto, erano completamente in grafica tridimensionale. I Freescape che abbiamo detto prima, che addirittura risalgono agli 8 bit che c'erano su Amstrad, su Spectrum 64, oltre poi ad Atari ST e Amiga, erano completamente in grafica poligonale, quindi non utilizzavano quello che poi abbiamo visto in Alone in the Dark, cioè il mix della grafica disegnata, prenderizzata in quadratura fissa con la grafica poligonale messa sopra, che comunque ce la siamo portata fino a 6-7 anni fa sto tecnica, perché alcuni giochi giapponesi ancora escono così, cioè nel senso... Sì, ma perché è un modo semplice per rendere cinematografica, certo, una scena che invece con il 3D totale vabbè, adesso riesce a farlo, sì, per carità, già è chiaro, potenza, chiaro. Ormai, da un po' di anni che lo riesce a fare ormai, però è comunque più complicato, se vuoi, da un punto di vista realizzativo, sì, tecnico, sì, diciamo, se che uno poi non ha grandi capacità tecniche preferisce la scena fissa, quindi con un qualcosa già di pronto e poi ci muovo sopra i miei personaggi. No, ma infatti poi lì entreremo nel discorso del fatto che molti studi di sviluppo giapponesi purtroppo non sono riusciti a rimanere al passo, ma poi qualcuno si incazza, quindi lasciamo perdere. Va bene, comunque altro da dire, insomma, sostanzialmente penso che abbiamo detto sì, nello specifico, poi ecco, nello specifico tutto, come ti dicevo, poi ce n'è in questo poi specifico ci caso, prometti, è una promessa che faccio mondo, io, okay, c'è il mondo dietro, esatto, che, quindi poi, che è un mondo che a me mi ha sempre affascinato, perché io ho trovato veramente sempre una grande intuizione, a volte probabilmente anche sperimentazioni al di sopra, voglio dire, delle reali potenzialità generazionali, no? Perché abbiamo visto anche giochi che erano proprio al limite, no? Nel senso, oddio, gliela faccio o non gliela faccio, insomma. Quindi, però insomma, il 3D è stato sempre un grande fascino, no? Quindi sì, considera che i giochi in 3D in realtà sono derivano veramente dagli anni 70, dalla notte, cioè, dei tempi, dalla notte dei tempi, esatto, prima il vettoriale vuoto, poi pieno, poi il texture mapping e così via, insomma. Quindi, va bene, va comunque bene. Spero di essere stato, come sempre, esaustivo, come sempre. Eventualmente se serve sono qui. Va bene, tanto ci saranno altre piccole cose, perché stiamo per ritornare anche un po' in più indietro, fare dei passi indietro anche nel mondo dei videogiochi, e sicuramente alcuni elementi dal punto di vista tecnico saranno utili. Io intanto ti ringrazio, quindi ci rivediamo prossimamente su Archeologia Informatica. Va bene, okay. Grazie a te, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Bene, come avrete notato abbiamo ascoltato anche un bellissimo brano musicale di Andrea Milana, bravissimo nei remix, è ritornato su Archeologia Videoludica e forse qualcuno di voi l'avrà anche indovinato, anche se non è proprio così facile, era un brano di Harlequin, videogioco della Gremlin, anno 1992, tra l'altro uno dei migliori platform su Amiga, e il brano remixato si chiama The Clockworks e l'autore originale era Barry Leitch, quindi un grandissimo compositore per Amiga, veramente fantastico, che ha fatto anche i complimenti personalmente ad Andrea Milana, che ha realizzato questo brano con un Electribe MX della Korg, quindi un synth particolare. Lo trovate comunque Andrea Milana, se avete altri suoi remix, su soundcloud.com Andrea Milana. Bene, partiamo con il Barnett College seconda parte e lo facciamo con parlando ancora di Alone in the Dark. Tra l'altro abbiamo parlato un po' di Emily, Cristiano l'ha anticipata, la donna che partecipava all'avventura di Alone in the Dark, che era poco sexy, però volevo farvi sentire un estratto dell'audio, avvicinò il microfono alle casse, di alta tecnologia APN. Sì, questa, eh? sì, alta tecnologia APN, ma poi guarda, cioè, sembra un film porno, scusate. Certo. Oh. Insomma, schiaffeggiamenti. Vabbè, lo potevi dire, l'ha disegnata la Croft, questa è chiarissima. Sì, sì, sì, sì, è fatto. Vabbè, no, ma infatti il doppiaggio, che poi adesso non voglio dire una stupidaggine, però il gioco uscì sia su floppy sia su CD, però credo che il parlato, vabbè, forse i versetti no, però il parlato era presente solo nella versione CD. Sì, sì, sì, assolutamente. Ed era ridicolo, cioè quando leggevano i libri doppiato malissimo, inascoltabile. però a me faceva paura, che vi devo dire, cioè pure il fatto che era così esasperato, così esagerato, no, così recitato in maniera proprio sì, non voglio dire teatrale, che qualcuno si offende, diciamo, però sì, insomma, però era molto molto esasperato, però se vuoi abbiamo un estratto anche di quello, aspetta, vai, che vai. Il microfono in the heart of your sleeves. Vabbè. Some may understand what I have done. Vabbè. May God forgive me. Vabbè, insomma, questo era lo zio Jeremiah Hartwood di... Mi rimangio tutto, non fa paura, scusate, sono sbagliato, assolutamente no. No, però, sì, questo era... Hai ragione Luigi, allora, Luigi, sì. Ti diamo scusa. No, no, ma parliamo di tensione, io, effettivamente. Sì, ho capito. Se ci si mette questo, va all'aceto, anche quel minimo di tensione. No, veramente, terrificante, guarda. Sì. Ma è vero, infatti, dicevi, poi forse anche, ripeto, anche forse per limiti tecnici non c'era questo poi gore esagerato, che poi sul 3D design forse era un po' complicato, no? Non lo so, si basava più sull'apparizione del mostro che sul mostro in sé, sulla paura dell'apparizione che sul mostro in sé, no? A te quale ti ha fatto più paura delle varie schermate, delle varie sezioni di Alone in the Dark? Ma guarda, secondo me già si apriva in modo terrorizzante, cioè, quando già all'inizio Canby camminava fuori dalla villa e si vedeva questa inquadratura, che poi è anche questa possibile grazie alla tecnologia, di qualcuno che lo stava osservando dalla finestra, era solo questa con la mano scheletrica, esatto. Quasi lì, una mostruosa. E poi lui entrava, la porta si chiudeva dietro di lui e poi subito, appena prendevi controllo della situazione, dovevi stare attento che ti arrivava un demone cattivissimo dalla finestra che sfondava tutto e ti voleva uccidere, quindi lì l'altro dalla botola esatto, quindi dovevi però te lo ricordi, lo ricordo. Per cui che potevi evitare appunto con delle cose, degli espedienti quasi adventure, no, cioè spostando un armadio per bloccare la finestra, oppure non mi ricordo cosa per bloccare la botola, forse la cassa c'era un baule lì vicino, sì, quindi potevi anche evitarlo il mostro, però su quelle cose che finché il mostro non ti compare non lo sai che devi bloccarlo, cioè quindi prima morivi, sì, poi... a meno che tu non vedi la porta che si chiude dietro, allora quando arrivi sopra riesci a fammi riparare da tutte le possibili intrusioni. Preventivo esatto, poi c'era esatto. Una sezione pure che tremenda, che era mi ricordo in maniera un po' più vaga, cioè quando eri in una specie di sala da pranzo in cui c'erano seduti tutti i demoni bloccati, fissi, no? Se tu li, diciamo, li andavi lì a disturbare un pochino, si alzavano tutti e ti ammazzavano, ed era uno scontro improbabile, invincibile, sì, esatto. L'unico modo era portare una specie di pentolone in mezzo alla stanza e loro si tranquillizzavano, si distraevano, diciamo. Sì, no, ma ecco, a me, ti dico una cosa che ha colpito tanto di Alone in the Dark dal punto di vista orrorifico, è che mi sono accorto che non mi faceva tanto paura, anche perché, come diceva Luigi, non ce n'era tanto e l'impatto visivo, diciamo, no? Ma proprio l'impossibilità di alcune situazioni. Tu hai detto i mostri seduti a tavola, sì. è una cosa inquietante, cioè che non puoi comprendere, cioè è una cosa che sta lì, è mortale, è letale, però tu non te la sai neanche spiegare. Un'altra cosa che mi terrorizzava terribilmente era la sala da ballo, in cui c'erano i tizi che, sì, quando tu mettevi il valzer cominciavano a ballare. Sì, sì, sì. Cioè questi mostri fondamentalmente, questi non morti, non so neanche come chiamarli, che non erano neanche brutti da vedere, anche perché lì il dettaglio era veramente ai minimi termini, che stavano fermi nel momento in cui mettevi il disco giusto, questi qua partivano e ballavano nella sala. Quindi, ma anche la stessa statua che sta lì, oppure il mostro con gli specchi, no? Quel mostro immobile sulla rampa delle scale. Non so se ti ricordi, Cristiano. C'erano due mostri, tipo due angeli. Esatto, diavoli, Luigi. Con due, sì, lunghe ali. Sì. Esatto. Come, e no? Quelli lì tu ci passavi davanti, non facevano niente. Sì, esatto. Non ti facevano passare dalle scale, però non è che nulla, stavano là fermi. E tu dovevi ammazzarli. Vabbè, facciamo un piccolo spoiler a distanza di 22 anni, 23 anni. Dovevi metterci degli specchi. Nel momento in cui mettevi uno specchio di fronte a questi demoni, cominciavano a contorcersi dal dolore o dall'orrore, ma probabilmente dall'orrore. E quando mettevi due specchi, è come se morissero dalla paura di loro stessi, no? Nel vedersi riflessi. Questa cosa qui è talmente fuori da possibilità di comprenderla, che mi faceva veramente tantissima paura. Che poi, secondo me, è una delle migliori forme, delle migliori maniere in cui l'orrore di Lovecraft è stato riportato nei videogiochi, proprio per questo motivo, cioè il non riuscire a spiegarsi il perché di certi orrori. Secondo me è stato questo veramente efficace, sì, Alone in the Dark. Una bella considerazione, mi permetto di dirla tua, perché è calzante con uno gli elementi che la tecnologia poteva mettere a disposizione, quindi meglio tenerlo fermo un mostro che non, sì, infatti, che dà di testa e comincia a camminare a usare tutti i frame di animazione possibili. Secondo, vai a giocare con quegli aspetti di enigmi che poi caratterizzeranno anche tutti i vari Resident Evil a venire, che però ti lasciavano entrare dentro quella sensazione di cui dicevamo prima, di non copertura. Noi siamo indifesi, quindi se ci avviciniamo all'orrore, in questo caso a questo mostro comparso da non si sa da dove, quindi è quasi linciana come atmosfera, sì, e noi possiamo essere toccati, contaminati, abbiamo il contatto con il terrore. Allora, il fatto che giocava con questi espedienti rendeva sicuramente più intrigante non solo capire cosa stava succedendo a livello di trama, ma ne conquistava l'atmosfera in genere, e quindi insomma, mi è piaciuta come riflessione. Grazie. Sì, e no, poi anche molto una cosa che mi colpiva tantissimo, poi anche perché era la prima volta che la si vedeva effettivamente, come hai anticipato già prima, Luigi, è l'uso della telecamera, no? Cioè il poter mettere un mostro fuori da quello che riesci a vedere, nonostante sia nello stesso scenario, nella stessa stanza, per dire, sì, semplicemente perché il tuo personaggio non si è ancora spostato nel posto adatto per far spostare anche l'inquadratura della telecamera, sì, apriva praticamente nuove possibilità, tantissime nuove possibilità. Tu potevi effettivamente giocare la tua regia in maniera fortissima. Sì. C'era, non ricordo esattamente, cioè i mostri che ti saltano fuori dal nulla, dei quali prima senti soltanto un lamento o altro. Poi anche per alcuni enigmi, mi ricordo un enigma in cui c'erano dei quadri che ti lanciavano una sorta di dardi che alla fine ti ammazzavano, che insomma era giocato molto bene con il quadro inquadrato sullo sfondo che ti faceva paura di suo, poi capivi che era pericoloso. Sì, insomma, è una cosa che poi se ci pensi a livello di gameplay era anche un po' scomoda, no? Perché tu... Sì, stavo pensando esattamente questo. Perché tu, io mi ricordo tantissime situazioni in cui c'eri tu con questa specie di fucile che dovevi sparare al mostro, e però il mostro stava fuori dall'inquadratura, quindi quando dovevi mirare era difficile. Sì, dovevi andare proprio... Poi non era possibile aspettare che arrivasse, perché se entrava nell'inquadratura ti acchiappava e ti faceva... Era tardi. Sì, era tardi. Ma poi ricordi anche la... Per dire, secondo me... Una delle cose che poi riusciva a generare quel senso di ansia che di cui parlava anche Luigi era anche un po' sicuramente il contesto lovecraftiano, no? E io fra l'altro vedo che è anche stato ispirato dalle opere di Edgar Allan Poe, oltre che Lovecraft. Lovecraft fra l'altro è uno scrittore americano, americano, non è inglese, no, perché c'è qualcuno che si sbaglia, roba che ha letto nel 2008, che è una gente che si è sbagliata. Almeno quelli incompetenti che scrivono. Sì, è americano, Vabbè, comunque, dicevo, c'era una sezione nel gioco in cui entravi in una libreria che poi era Alone in the Dark. Era in the dark la libreria, era una delle poche cose che poi in effetti erano scure. Sì, sì. Bisognava mettere questa specie di lampada a petrolio, mi sembra, a terra, sì, o comunque portare. E quindi andavi in questa, scusa, la biblioteca era proprio una biblioteca vera e propria, no? In cui era possibile prendere qualche libro, fra cui chiaramente il Necronomicon e il De Vermis Mysteris, no? Che sono quei libri che secondo Lovecraft sono usa come background per le storie, no? Allora cosa bella di questi libri è che tu aprivi questo libro non sapendo che era il Necronomicon, perché non c'era scritto, c'era scritto solo libro, no? Quindi aprivi e poi leggevi le prime cose, vedevi che c'era scritto roba tipo non è morto ciò che può attendere in eterno. Dicevo, mamma mia, il Necronomicon, ho paurissima, fra l'altro recitato con quella qualità, l'enfasi lì, e quindi cominciava. Voi sapete che quando si recitano, come anche Evil Dead insegna, quando si recita roba dal Necronomicon è finita, cioè non devi proprio parlare. E quindi lui recitava ad alta voce sta roba e faceva questo errore, e tu spettatore capivi già da subito che era successo un casino, ancora prima di vedere che quando chiudeva il libro Carmi lui o si sentiva stanco o a un certo punto aveva tipo le convulsioni, si veniva spezzato il collo, insomma moriva praticamente. Quindi non bisognava proprio leggerlo sto libro qua, oppure si le poteva leggere se ti fermavi, mi pare, su una specie di pentagramma, di pentagono, sai, la classica cosa delle streghe, no? Che ti fermavi lì e lì lo potevi leggere, anche se poi era inutile nel gioco, però erano appunto quei dettagli lì che fanno anche leva sul background, che riescono a generare questo tipo di tensione. E poi ti ripeto, secondo me la paura era quando tu giocatore capivi che era il Necronomicon ancora prima di morire, cioè morivi dopo averlo capito. Perché dicevo, oddio, il Necronomicon non dovevo leggerlo, lo chiudi e muori, cioè questo, quindi tutto torna. Sì, esatto. Infatti poi una cosa molto particolare di Alone in the Dark rispetto a quanto siamo abituati a vedere oggi nei survival horror, ma anche immediatamente dopo, insomma quasi con Resident Evil, è l'interfaccia di Alone in the Dark. Era, cioè già all'epoca secondo me si capiva che era qualcosa da migliorare profondamente, ma ad approcciarla oggi non so se io ci ho riprovato a giocare Alone in the Dark, perciò mi ricordo qualcosina tramite DOSBox, ed è qualcosa di è una delle cose più scomode, sì, alle quali si possa pensare. Ma forse anche all'epoca doveva far suonare qualche campanello d'allarme a Frederick Renal mentre la implementava, perché, ma sai che lui non era proprio felice del risultato finale, Renal, cioè non era contento, era tutto contento mentre lo sviluppava, però poi alla fine quando hanno fatto il testing hanno detto questo gioco non piacerà a nessuno, sì, sbagliando clamorosamente fra l'altro. Quindi, sì, 2,5 milioni di copie vendute, esatto. Sì, perché comunque in effetti c'è un problema di controlli molto, molto importante, perché comunque sia Alone in the Dark, diciamo, è una sorta di via di mezzo, se così possiamo dire, tra un quello che potremmo chiamare appunto action game 3D e un'avventura grafica. perché praticamente bisognava switchare abbastanza frequentemente tra l'azione normale e l'interfaccia e una schermata che ci permetteva di entrare in modalità combattimento, esatto, di accedere all'inventario e quindi di utilizzare gli oggetti che avevamo raccolto di qua di là. Tra l'altro una cosa che mi pesava tantissimo era l'impossibilità di, cioè tu ti avvicinavi a qualche cosa, dovevi capire che ti eri avvicinato a qualcosa, non è come le avventure grafiche dell'epoca che passavi il mouse sopra un oggetto e ti segnalava ok pianoforte, Aveva messo invece proprio in modalità, se non sbaglio, proprio cerca in qualche modo, esamina, si metteva in quella posizione assurda come se stessi prendendo qualcosa, 90 gradi, esatto, e poi lì si attivava una specie il sensore che poi ti diceva se avevi preso qualcosa, avevi trovato qualcosa oppure no, sì. Ma l'interfaccia era proprio scomoda, perché l'unica cosa comoda è che bloccava il tempo, cioè quindi se tu arrivavi un mostro e ti voleva ammazzare, sì, o presto interfaccia e mettevi in pausa e quindi e me ne scappo quindi avevi perlomeno il tempo di non lo so, di fare qualche esercizio di respirazione, non lo so, di stare un po' più tranquillo, e questa cosa spero di non anticipare nulla, questa cosa delle varie modalità da approcciare, cioè questa interfaccia che diceva modalità combattimento, modalità esamina, eccetera eccetera, ricorda moltissimo quello che poi fu il gioco successivo di Renal, che è Little Big Adventure. Comunque anche lì c'erano delle modalità per, cioè c'era quella normale, la sportiva, discreto, c'era l'aggressivo, mi pare, e quindi c'era proprio questo approccio del che non erano proprio i verbi, non è esattamente la stessa cosa, era proprio un atteggiamento del sì infatti, che, tra l'altro Twinsen, il protagonista di Little Big Adventure, questo non fa molto onore a Carnby, si muoveva in certe cose quasi come Carnby, cioè era talmente strano, quasi come Edward Carnby, solo che appunto i contesti sono molto diversi, un gioco horror e uno quasi umoristico in certi versi, no? Little Big Adventure è molto pacioccoso, esatto, cartunesco, e così via. Fra l'altro, quindi, scusami, no, l'ultima cosa che volevo dire a proposito di Lovecraft è che il personaggio protagonista, che è Edward Carnby, l'abbiamo già detto, è ispirato a un personaggio che si chiama John Carnby, che è il protagonista di una storia che si chiama The Return of the Sorcerer, che non è di Lovecraft ma è di Clark Ashton Smith, ma che è basata su comunque i miti di Cthulhu. Fra l'altro è una storia scritta nel 31, quindi Lovecraft, che è uno scrittore americano, ripeto, era ancora vivo da di Providence, esatto, era vivo, quindi insomma il periodo è quello, e c'è quindi questo John Carnby che è protagonista di questa storia, che si collega anche per il fatto che si cita il Necronomicon come spesso succede nei miti di Cthulhu, e fra l'altro una piccola chicca qui, cioè esiste una trasposizione televisiva come puntata della serie Night Gallery, in cui John Carnby era interpretato da Vincent Price, quindi insomma abbiamo anche un adattamento che non è un capolino al cinema, che non sono gli adattamenti di Halloween the Dark, che vabbè forse quelle è meglio che li saltiamo però insomma togliamoci il dente, li avete visti? Sì, li ho visti. No. Anche tu, non li vedere. Io ho visto. Io ho visto addirittura in realtà soltanto il primo. Io ho visto anche il secondo, quindi fatemi quindi la statua. Sei un esperto. Sì. No, ma non mi ricordo. Guarda, è proprio un film. Sai, per esempio, proprio che tu lo guardi 3 secondi dopo, o ti sei addormentato prima, oppure l'hai rimosso 3 secondi dopo. Una roba. Ma il bello è che mi sono approcciato anche con una certa fiducia, perché sai, questi autori che dicono tutti, non sono orribili, non sono buoni, dicevo vabbè magari qualcosa di buono c'è, no, non c'è niente di buono, vabbè l'autore è Uwe Boll, peggio di quello penso non è una garanzia di film di pessima qualità, ma sai che sì vabbè, ma so che ultimamente qualcosina di più decente ha fatto, però non sono andato bene a indagare, così schifo. Lui non ci credo nemmeno. Esatto. No, ma poi lui approccia le cose in maniera molto ignorante, cioè è chiaro che non gliene fregava nulla del gioco, non ha avuto nemmeno un minimo. No, ma sai, la cosa interessante poi, secondo me, di questo, cioè interessante del gioco, a parte che perde qualunque tipo di aggancio, sia per con Lovecraft, sia comunque qualunque tipo di generale terrore che c'era nell'originale, ma poi in realtà non c'entra nulla col primo episodio, è un quasi un sequel del quarto episodio, cioè The New Nightmare, quello che poi si voleva essere una sorta di ripartenza della serie, no? Perché comunque c'è tutta quella mitologia sugli Abkhani, quella roba lì, che poi sono andato a vedere se in effetti coincidevano le cose, e coincide vagamente il background, ci sono delle cose che citano in entrambe le produzioni, però niente, anche lì riesce a cozzare la continuity con quella del gioco, quindi neanche lì sono riusciti a fare un sequel decente, mentre qua invece il sequel del film vero e proprio, che non è di Uwe Boll, ma lui ha fatto il produttore, ma quindi insomma a parte che cambia il protagonista, l'attore, che già era Christian Slater, che vuol dire, dai, comunque se non doveva permettersi neanche un attore così prestigioso, no, ma infatti è completamente inadatto, cioè non c'entra proprio nulla, sì. Ma neanche poi con il protagonista di The New Nightmare, perché The New Nightmare c'ha i capelloni, è gotico, è un po' dark, quindi Christian Slater non c'entra proprio niente, che poi è americanissimo, mentre poi cambia, come abbiamo detto, aveva un po' quell'approccio da The Lord, no? E invece nel secondo episodio è asiatico, Carmi, cioè è passato da essere inglese a essere americano e poi asiatico, cioè vabbè, comunque. Vabbè, ma quello è un 28, visto che nel videogioco sono passati da un vecchio a un giovanotto, così con nonchalance, esatto. Possiamo fare un po' come ci pare, che poi il secondo episodio di Alone in the Dark, del film intanto, non è neanche legato al primo, quindi cioè finisce con un cliffhanger il primo, finisce un po' tipo, avete presente la casa, no? Evil Dead, quando arriva il male che va contro Ash e finisce il film, no? Ecco, finisce più o meno allo stesso modo, solo che poi non si sa com'è finita. Poi lui rimane asiatico, si vede che ha cambiato razza all'improvviso, è cambiato così, oppure ha fatto una plastica, no? E quindi completamente slegato a livello di vabbè, comunque brutte cose, diciamo, questo sicuramente. No. Ho capito, in effetti è un film che non vi consigliamo di vedere, giusto se siete curiosi, come lo siamo stati sicuramente io e Cristiano, semplicemente per questo. Sì, per curiosità, certo. Sì, per completezza, per gli appassionati di Alone in the Dark. Comunque una cosa che hai detto prima è interessante, scusa se inserisco di voi, poi taccio, No, parla. Che mi sono dimenticato di inserirmi prima, perché tu hai detto che la componente adventure era abbastanza rilevante. Sviluppata, esatto. Sì. E quasi possiamo dire un mezzo e mezzo, cioè un 50% di avventura, un 50% d'azione, tant'è che, come dicevamo anche prima, non è che poi si parlava di survival horror ai tempi, io ricordo che si parlava proprio di avventura grafica, anche se poi sappiamo che è molto tirata come sì, infatti, più action adventure. Oggi forse lo chiameremo più, se non survival horror, appunto action adventure, però ai tempi era vista proprio come avventura grafica, cosa che poi in realtà si è progressivamente persa nella serie. Già il secondo episodio aveva delle sparatorie pazzesche, già all'inizio partivi subito che sparavi a tutti, mentre invece anche il terzo, anche se era bilanciato meglio, poi il quarto è Resident Evil praticamente, quindi ci spostiamo verso quella cosa lì, e poi vabbè, il nuovo è anche un action adventure in sé, per cui è soltanto il primo che conservava questo bilanciamento, quindi quando poi si è coniato il termine in qualche modo survival horror, ormai quella parte di avventura si era ormai persa, si era smarrita già praticamente. Non so se volete aggiungere altre cose, su altre considerazioni su Alone in the Dark prima di passare eventualmente avanti. Non so, Luigi, se ti viene in mente qualcosa di... Ma non in particolare, e sono stato lieto di sentire Cristiano in merito. Sì, è stato molto completo il nostro caro Caliendo. Sì, d'altra parte sto leggendo roba che ho scritto tempo fa. Sì, allora, diciamola anche questa cosa, quell'incompetente che aveva scritto di Lovecraft inglese, chi era? Ero io, ve lo dico. Dopo 6 anni era giusto, questa parte Schizzi me la taglierà, lo so già, per cui non dico altro, però vabbè, lo dovevo togliere questo peso. Vabbè, è andata così. Dai, va bene. Vabbè, quindi poi Alone in the Dark è andato avanti, chiaramente, come serie. Abbiamo già detto che la Infogrames ha preso un sacco di soldi dal debutto del primo videogioco, tuttavia compromettendo il rapporto che aveva con Frédéric Reynal, perché già l'autore viveva una situazione particolare dal punto di vista personale. È stato omaggiato poco dalla stessa Infogrames per quanto riguarda i credits al gioco, difatti la casa produttrice chiese a Reynal di togliere il suo nome come creatore del gioco, voleva che comparisse semplicemente Infogrames, e quindi insomma si è rotto qualche cosa fra i due. Tuttavia, un gioco che vende 2,5 milioni di copie non poteva fermarsi semplicemente perché un autore aveva rinunciato ad occuparsene. E di conseguenza poi la Infogram decise di affidare lo sviluppo del seguito, che sì, chiaramente Alone in the Dark 2, al suo discepolo, praticamente al discepolo di Frédéric Reynal. E questo chiaramente fece smarrire un po' quello che poteva essere lo spirito del gioco originale, come ha già anticipato Cristiano. Difatti Alone in the Dark 2, che era stato tra l'altro anche anticipato da Jack in the Dark, che era una sorta di demo, diciamo, e quella formita, era proprio un'avventura grafica, sai, cioè era, sì, rispondeva, non c'era proprio il combattimento, sì, sì, sì, quella rispondeva proprio a un'avventura, sì. Carina, molto, esatto. Era anche carina come idea, cioè una specie di prequel, no, del, sì, una, come promozione, sì, una parte di gioco, sì, no, infatti molto, molto interessante. E correggimi se sbaglio, Cristiano, che tu sei quello più ferrato probabilmente, visto che l'hai giocato, è stata la tua entrata nella serie di Alone in the Dark, sì. Non era comunque male Alone in the Dark 2 rispetto, sì, sì, no, in generale, guarda, insomma, in assoluto. Se, l'impatto che ebbi col 2 fu, diciamo, chiaramente avendo giocato il primo successivamente, il secondo invece l'ho giocato praticamente all'uscita, l'impatto col secondo fu più forte per me a livello più che altro audiovisivo, no? Perché cominciava con questa entrata di Ted Stryker, che era una specie di investigatore come Cammy, che cercava di infiltrarsi in questa villa che mi pare si chiamasse Hell's Kitchen, per liberare, sì, la ragazzina Grace, che è appunto la protagonista di Jack in the Dark, no? E c'era, mi ricordo che erano molto fluide, trovavo molto fluide le animazioni, cioè perché c'era questa sezione in cui questo si alzava, scavalcava, andava sopra al muretto, cioè che, no, apriva la finestra, c'erano queste inquadrature, no? Era estremamente fluido ed erano di molto superiori al primo episodio le animazioni, quindi c'era io questo. Penso, sì. Sì, sì, penso siano arrivati molti soldi in, sì, esatto. Per l'occasione, no? C'era questa chiaramente introduzione, che c'erano un sacco di personaggi anche su schermo, e poi le zoomate, c'era, guarda, io ricordo anche una cosa, che dato che c'era, lo giocai su CD-ROM, c'erano queste, sai come era ai tempi con le tracce audio, no? Che sì, non era tutto, era staccato, ascoltabile da alto, esatto, sì, sì, era staccato dal gioco vero e proprio, quindi con quel PC che avevo, per qualche ragione mi convinsi, forse così, che la musica fosse perfettamente sincronizzata alle immagini, no? Cosa che se invece vado a giocarci adesso trovo che è tutto sballato e non mi dà la stessa sensazione di prima, perché ricordo che questa musica che riusciva a bloccarsi proprio nel momento giusto, no? Perché era un loop, in effetti era un loop della stessa traccia, riusciva proprio a completare bene tutta l'introduzione di questo personaggio che entrava nella villa, e poi c'era questa zoomata, vedevi che veniva colpito in qualche modo da qualcuno, e poi c'era questo bicchiere che cadeva a terra con acqua che scorreva un pochino, che era una zoomata che per me graficamente bellissimo, e poi non solo l'entrata in scena di Carmi, che fra l'altro io non lo so bene di chi ha avuto questa idea, forse Bornell, per vendicarsi hanno tolto i baffoni, cioè questa cosa più baffoni, cioè, una cosa che non si può guardare, che poi la faccia era la stessa. Però povero Carmi, comunque ne è passate come character video lui. Esatto. Che con un piglio molto più americano che inglese in questo secondo episodio, invece di entrare in maniera stealth come il suo protagonista, come il precedente diciamo collega, fa saltare subito il cancello, quindi fiamme, fuoco, fiamme, titoloni Alone in the Dark 2, insomma proprio cinematografico al massimo, c'era proprio questa attenzione alle cutscene che inizialmente non c'era nel primo episodio, nonostante poi ci fosse quell'introduzione, sai, ricordiamo, abbiamo detto, molto evocativa, in realtà il secondo, sì, aveva proprio molta più attenzione su questa anche non interattiva, sì, diciamo. più sul reparto proprio spettacolare, ecco, più che altro. Anche in questo secondo me ha perso l'identità di Lovecraft, sì, il gioco, perché chiaramente il primo, si essendo anche molti romanzi di Lovecraft si basavano su ritrovamenti, no? Quindi il primo, tu praticamente nel primo riuscivi a ricostruire le vicende semplicemente trovando il foglio di quello, trovando il foglio di quell'altro, e quindi riuscivi a mettere insieme i pezzi di tutto quanto. Invece appunto in Alone in the Dark 2 c'è proprio, non dico un una virata hollywoodiana, ma quasi, insomma, no? Sì, è praticamente un action quasi, cioè è un action, sì, un action, ma anche, come dicevi tu, l'incedere della storia è raccontato in maniera con un altro ritmo, insomma. Sì, ma fra l'altro, cioè già all'inizio, dopo aver fatto saltare il cancello, lui doveva affrontare due o tre zombie a testate, cose così, poi prendeva subito il Thompson, cioè c'erano pure più armi, era un gioco molto più orientato sull'azione, e quindi perdeva quel bilanciamento di cui abbiamo parlato con l'avventura, che quasi, cioè non dico era assente, però no, era molto più sbilanciato, ma poi non era lovecraftiano per nulla, cioè sì, c'era il voodoo, c'erano gli zombie, c'era il pirata, cioè il pirata che fra l'altro c'era anche nel primo, perché poi il responsabile di tutto si scopre che era un pirata defunto, eccetera. Aveva un retrogusto inquietante ancora, in realtà, però certo, non era... Ma poi la parte della bambina era inquietante, effettivamente. La parte della bambina, invece, esatto, quella lì era quasi interamente adventure, cioè, a parte il fatto l'idea in sé di interpretare un secondo personaggio, che non è la stessa cosa del primo episodio, in cui tu fai la stessa avventura, poi erano uguali, sia Emily sia Carnby erano praticamente la stessa cosa, no? Sostituibili. Sì, era fatta proprio per ragioni di marketing, pensavano che le ragazze si sarebbero avvicinate di più se ci fosse stato un personaggio femminile, no, veramente, quindi insomma la pensavano così. Nel secondo episodio invece non è che potevi scegliere di impersonare o Carmi o Grace la bambina, ma c'era proprio una sezione anche piuttosto lunga in cui Grace scappava dai rapitori in qualche modo, e insomma faceva tutta una situazione di, faceva una specie di mamma ho perso l'aereo, metteva le trappole, faceva inciampare gli zombie così, però era tutto in contesto adventure, perché poi lei non sparava, non è che poi uccide, sì. E il fatto che fosse questa sezione era proprio integrata nella storia, cioè c'era proprio un momento nella storia, una scena in cui Carmi finiva, diciamo, fuori gioco, e quindi subentrava Chris, che poi doveva anche aiutare nel frattempo Carmi, quindi non era proprio sovrapponibile, non erano due personaggi diversi, era proprio la trama che ti portava verso quella direzione, non è come Resident Evil, capisci, cioè che erano complementari magari, sì infatti cosa. E quindi era un cambio di gameplay esagerato, cioè ritornavi un po' a Jack in the Dark in qualche modo, anche se era un po', ancora un po' extra. Poi era tremendo il fatto che la bimba si muovesse molto lentamente, quindi se essendo una sezione anche molto stealth, no? Era un mix proprio di genere, no? Nel momento in cui... molto più sì, dimmi. Sì. No, dicevo, un mix molto più riconoscibile, insomma, nelle varie componenti, sì. Cioè, ben diviso, diciamo. Quando ti vedevano zombie e tu provavi a scappare, era inutile, perché lei si muoveva talmente lentamente, anche se aveva l'opzione corsa, che fra l'altro era scomodissima da attivare. Questa cosa non l'abbiamo detta, ma a proposito di interfacce claudicanti, simpatiche, sì, cioè, per correre bisogna fare una specie di bisogna premere due volte il tasto avanti, no? Il tasto della freccia in alto, che era scomodissimo, perché certe volte non capiva che avevi premuto due volte, quindi camminava solamente. Poi dopo, per fortuna, misero lo shift, che almeno su PC questo, poi inventarono lo shift e quindi cominci a correre così. Però il secondo episodio era molto più, fra virgolette, epico del primo. È un gioco inferiore, però era molto più, sì, cioè aveva molte più ambientazioni, la storia era più presente, era più spettacolare, era, diciamo, la versione ipertrofica del primo in qualche modo, meno autoriale, sì. Ecco. Questo. E siccome le cose, comunque, cambiando autore, cambiando designer, sono andate bene per le Infogrames, per il terzo Alone in the Dark cosa fecero? Cambiarono di nuovo il team alle prese con il prodotto, e quindi, insomma, mettendo altre incertezze in una formula che comunque sia non era più particolarmente fresca, perché purtroppo un errore delle Infogrames fu quello, nel corso degli anni, di non voler cambiare motore grafico, praticamente cercarono di spremere quanto introdotto Alone in the Dark praticamente fino all'estremo, e quindi Alone in the Dark 3, che arriva nel 1995, quindi insomma in un periodo abbastanza avanzato della storia dei videogiochi rispetto al primo, mantiene ancora quell'engine, non engine, diciamo, che quell'impostazione comunque originale, e comincia un po' a zoppicare, diciamo. Il terzo alla fine non è stato un grandissimissimo successo di vendite, credo. Sarà andato abbastanza bene, ma comunque ha dato l'impressione di non far parlare molto di sé. Non so se io per dire non ci ho mai giocato, ecco, però a te è capitato, Cristiano, di giocarci? No, il terzo sì, allora il discorso è questo, da quello che ho capito, insomma, facendo un po' di ricerca, a parte che del team originale l'unico ad avere un posto di rilievo fu proprio Hubert Chardot, esatto, che rimase sia nel secondo sia nel terzo episodio, però poi il progetto comunque sembra che l'abbia gestito Bonnell proprio, quindi diciamo che scusate, c'era più azienda. Sì, sì, era una roba più, sì, più pilotata dalla produzione, quindi era una cosa più così. L'aspetto autoriale si era ormai perso. E niente, cercò di bilanciare un po' meglio le sparatorie con la fase più adventure. Riuscì a inserire comunque un'altra sezione atipica come quella di Grace nel secondo episodio. Questa volta interpretavi una specie di puma per un certo periodo, perché Carmi spoiler muore. E quindi si reincarna in un puma, e quindi c'è questa sezione e lui entra, questa volta non ci sono zombie, non ci sono demoni, ma ci sono, se non sbaglio, proprio fantasmi in qualche modo, cioè proprio tutto del West. Sì, ci sono, è ambientato nel... sì, è un gioco ambientato nel deserto del Mojave, che praticamente è anche lo scenario di Fallout New Vegas. Ah, figurati, tra le altre cose. Sì. No, sì, c'era proprio un'intera troupe che stava girando un film western, però sono tutti morti, e quindi lui arriva e vede questa specie di anime maledette della crude, diciamo, cinematografica. E niente, torna anche una cosa curiosa che si può dire, anche torna Emily Atwood, che è il personaggio più caratterizzato della serie, con gli occhialoni. È lei che un po' dà il via alla storia, perché lei, a quanto pare, secondo la storia, poi diventa successivamente al primo episodio un'attrice. Non so perché, scusate. Eh sì, perché nel primo episodio lei dice che voleva diventare. Ah, lo dice. Era una sperante attrice. Ok, perfetto. Quindi tutto torna. E quindi Carmi va, diciamo, con l'intenzione di salvarla. Fra l'altro, c'è anche una. Cercano anche di far tornare un po' le cose come succede nelle trilogie, no? Nell'episodio finale. Perché il cattivo, che si chiama Stone, Jeremiah Stone, mi sembra. Jeremiah? No, non Jeremiah. Un'altra cosa, aspetta. Vabbè, Stone, sì, esatto. Si lascia intuire che possa essere il figlio di Elizabeth Jarrett, che era la super cattivona del secondo episodio, e il pirata Prince, che è il super cattivone del primo episodio. Quindi per ritornare al gossip, praticamente. Esatto. Quindi in qualche modo si torna diciamo, il cerchio si chiude, no? Comunque una cosa molto bella, visto che poi dopo questo aspetto cambia, sono le cover, che secondo me le cover di Alan Dark sono bellissime, cioè di tutti e tre, non so se le avete viste. Sì. Quella del terzo è veramente quella fantastica. Del tre è proprio bella, ma anche quella del due è veramente bella, ma sono tutte simili, sai, un po' come Ritorno al Futuro, che cambia solo qualcosina, no? Secondo sì, me sì, anche. Però una cosa curiosa che si può dire sul primo episodio invece è che in realtà molte cover erano disegnate in maniera diversa, era proprio un altro concept, di un altro artwork, perché all'interno della cover c'era scritto Alone in the Dark Virtual Dreams. Virtual Dreams era la serie che, secondo le intenzioni iniziali, dovrebbe essere, appunto, il primo episodio doveva essere Alone in the Dark. Avrebbero dovuto fare tutta una serie su questi Virtual Dreams, non so bene, di giochi così, esatto, probabilmente sullo stesso tipo di tecnologia, no? Cosa che poi è stata fatta, però si è preferito fare proprio dei sequel diretti. E in realtà una collana, praticamente, forse immaginavano loro, sì, una collana di, sì, come un po' come le serie televisive, immagino, no? Sì. Se non sbaglio, proprio l'originale cover italiana proprio era questa, era, oltre a essere in altri credo in quasi tutta Europa, però quella italiana era così, c'era, cioè, Virtual Dreams scritto sopra da Alone in the Dark, però era una, secondo me, una copertina meno efficace di quella che poi è stata utilizzata successivamente. col lampadone davanti a Derceto praticamente. Esatto, sì, sì, sì. Ho capito. E niente, quindi poi a questo punto, diciamo, gli Alone in the Dark si sono un po' arenati in attesa che qualcosa accadesse, perché chiaramente nel frattempo si era armata tutta una concorrenza di survival horror veramente scatenatissima, direi. Luigi, cosa pensi che possa aver bloccato, diciamo, la Alone in the Dark? Insomma, cosa da spettatore, cosa ti sembra che li mancasse rispetto a quello che stava nascendo su PlayStation, a tutto questo furore nel calderone dei survival horror? Ma probabilmente una sua referenzialità di fondo, la sua autoreferenzialità, è cambiata la direzione artistica, quindi non essendoci più Reynal, fondamentalmente c'è stato un cambiamento negli anni che non poteva non essere, non poteva che portare, diciamo, dei frutti ambigui. Non si è rinnovata, ecco, il PC è sempre lavorato dal punto di vista tecnologico. Anche la sfida iniziale di Alone in the Dark era quella di creare un toolset che potesse in qualche modo poi avvicinarsi all'idea di game design che aveva Reynal. Quando si è esaurita, diciamo, questa urgenza, questa eventualità, è rimasto soltanto il videogioco in sé, che cambiava magari la sceneggiatura, cambiava i setting, gli ambienti, ma non andava più a attingere a quelle che erano, secondo me, l'identità forte di un survival horror. Non c'era più Lovecraft, non c'era più, sì, sai, quegli aspetti che connotano, anche se sono magari ridondanti o in qualche modo già codificati, connotano una produzione alle sue origini, un genere anche alle sue origini. Facendo il paragone, scomodando Resident Evil, ovviamente l'aberrazione era lo zombie, lo zombie. Quindi adesso non vediamo come si è sviluppata poi la saga, perché adesso lo zombie non è più il figlio, diciamo, di una conseguenza di qualcosa che ha reso a morte le persone. Adesso lo zombie è Resident Evil, è diventato l'uomo stesso che può continuare a lavorare, fare le sue cose. Già ricordiamo Resident Evil 4 con Las Plagas, persone, diciamo, infettate che sono dei portatori nocivi di qualcosa, quindi di un ospite, un parassita, ecco. Scusate, se da questo punto di vista il genere viene connotato con una sua identità legata proprio ai personaggi, al suo immaginario, Alone in the Dark ha perso questo, ha perso Lovecraft, ha perso la sua fonte di ispirazione, quindi una direzione artistica precisa che non dovesse più giocare soltanto col motore grafico per migliorarlo di episodio in episodio, ma che avesse una sua forte identità anche dal punto di vista stilistico e topico, di contenuti, di io chiamo proprio di anima, ecco. Sì, ha perso progressivamente cioè personalità, se possiamo dire personalità, sì. il brand Alone in the Dark, peculiarità, diciamo, ecco. Non ha fatto nulla nemmeno in questi anni per ritrovarsi. Se pensiamo all'Alone in the Dark uscito per Xbox e piattaforma PlayStation, no? Penso, sì. Non so se è uscito anche su PC quel gioco. Sì, è stato pubblicato su PC anche. Ha giocato su degli aspetti consolidati, quali il nome del protagonista, il nome del gioco stesso in qualche modo, il terrore, il mistero, ma molta gente l'ha presa come come si può dire, secondo me, come un remake di quello che poteva essere l'iniziale avventura, ma come una sfruttare il brand soltanto per avere una sorta di risonanza che richiamasse nostalgicamente al passato, soltanto nel senso di ricordo, guarda come sono cambiate le cose. Ecco, io penso che non siano vincenti queste soluzioni, come invece sta facendo, che posso dire, Capcom adesso con un remake, un remaster in HD del remake di Resident Evil, il primo, che uscì su GameCube. adesso su piattaforme PlayStation. Cioè andiamo a toccare degli aspetti secondo me che tengono vivo il brand. Quindi ti puoi giocare poi la carta di far uscire un Resident Evil Revelation 2 o un qualcosa che si avvicina di più a quelli che erano i dettami del primo Resident Evil. Alone in the Dark non può permetterselo questo perché l'hanno lasciata a sé l'avventura. Sì, è stato abbastanza dimenticato, diciamo, proprio nella sua essenza, non nel suo spirito iniziale. Non si è mai reinventato. Questo è no, ci hanno provato in maniera diciamo molto, molto goffa negli anni successivi. Ma infatti poi se, sì. Quando fecero il film, sai, quello non c'erano molti film basati sui videogiochi, no? Cioè Resident Evil, quando poi Uwe Boll fece House of the Dead, era ancora un gioco recente. Questo Alone in the Dark che cos'è? Cioè, non lo sapeva nessuno. Cioè, sì, già all'epoca, già quando uscì il film, poi sì, si è collegato. Perciò gli diedero la licenza. Esatto. Cosa si collega a come abbiamo detto al quarto episodio, d'accordo, però il brand in realtà non è che poi ha tutta sta forza che uno dice sì vabbè non è da no vabbè, ma comunque Uwe Boll ha fatto dei film su brand che sul giocatore medio non potevano avere nessuna presa ma anche lo stesso Far Cry per dire non era un gioco di chissà quale fama, cioè tra i videogiocatori PCisti sì, ma non era neanche uscito su console per dire Far Cry all'epoca, oppure Dungeon Siege. Sì, Postal pure. Figurati, Postal. Anche se Postal poi ha fatto fare un po' di soldi successivamente a Uwe Boll. Perché sì, forse l'ha azzeccata quella un pochino. Forse sì, c'era più autoironia un po' che. Strano, un po' di lui. Autoironia zero. Vabbè. No, non ne ha. Sì, infatti. Comunque, diciamo, sì, ci hanno provato comunque a farlo ripartire Alone in the Dark in maniere insomma abbastanza traumatiche. Io sono estremamente contro i reboot di solito, soprattutto quando sono fatti in maniera totalmente insensibile, come uno che prende il protagonista, lo ringiovanisce di 50 anni, di 30 anni quantomeno, e lo mette in un contesto diverso, perché Alone in the Dark è ambientato negli anni 20, Alone in the Dark 4 è ambientato negli anni 2000 mi pare proprio, quindi proprio nel 2001 mi sembra proprio, nel sì, presente sì, 2001, 2001 sì, proprio? Sì, sì, credo proprio 2001. Figurati. Sì, ma tu pensa che in effetti poi mentre la serie si bloccò, no? Rimase freddata. Renal fece diciamo un suo percorso, lavorò a Time Commando che è una specie di action abbastanza dimenticabile. Sì, no? Sì, sì, me lo ricordo. Però c'aveva questo molto questa cosa che viaggiava nel tempo, mi sembra. Che veniva citato anche in Little Big Adventure 2, che è appunto il secondo episodio della serie, volevano fare anche il terzo, peccato che non l'abbiano fatto perché non mi piace molto Little Big Adventure. Nonostante sia abbastanza ingiocabile adesso, un po' come Alone in the Dark, perché l'interfaccia anche lì è... Adesso sì, non è che puoi sperare tanto, esatto. Chiaramente un po' per tutti quei giochi sperimentali fondamentalmente di quegli anni. Sì, e comunque poi vedi anche Renal è tornato un po' all'origine, visto che ha aperto quel crowdfunding per per un gioco che si chiama Too Dark, Dark Linea Sovrana. Sì, esatto. Che comunque è riuscito a passare. Adesso non lo so se si tratta di qualcosa che dovrebbe essere un survival horror proprio, fatto in 2D molto, molto retro come stile. E oltre poi ad aver collaborato a Soul Bubble, che è un gioco per Nintendo DS che ho citato anche prima, che fra l'altro è anche molto carino, però non, cioè, è proprio la cosa più lontana possibile che puoi immaginare da Alone in the Dark, è una cosa proprio chiaramente. Mentre invece il quarto episodio credo che ci fosse solo Bonella del vecchio team, cioè proprio un'altra volta lui è tornato rinvigorito. Sì, ma lì veramente non c'è stato un episodio di Alone in the Dark in cui ci sia stato veramente un elemento di stabilità dal punto di vista dei creativi. In nessuno. E poi quello che è successo scusami, sto interrompendo ultimamente, perdonami. No, tranquillo. La cosa curiosa della serie di Alone in the Dark, che ricorda un po' quella di Tomb Raider, quello che è successo, cioè Tomb Raider prima si ispirava a Prince, poi successivamente Prince si è ispirato a Tomb Raider, poi successivamente Tomb Raider si è ispirato a Uncharted, cioè è successo questo. Però Alone in the Dark è successa una cosa simile, perché laddove Resident Evil sembrava essere in qualche modo il figlio di di Alone in the Dark, e New Nightmare è Resident Evil, cioè c'ha comunque anche il doppio personaggio, doppia scelta del personaggio, una lei e un lui, sono avventure complementari, quindi diversamente dal primo episodio, c'è l'elemento, questa volta veramente c'è l'elemento del Dark, perché comunque c'è portato una torcia, e quindi Alan Wake come idea. Sì, tra l'altro però voglio spezzare una lancia in favore di Alone in the Dark 4 su niente di particolare, però l'uso della torcia era effettivamente fatto bene, probabilmente meglio di quanto si era visto fino a quel momento. E poi tecnicamente è stato un gioco che ha avuto un certo riguardo per le versioni minori, perché Alone in the Dark 4 è uscito anche per PlayStation 1 e tecnicamente secondo me era veramente notevole per la prima PlayStation, e addirittura c'è una conversione per Game Boy Color, cioè Game Boy Color, neanche l'Advance, che c'ha ambienti alla Resident Evil, insomma, con schermate fisse, personaggi che si muovono così, è abbastanza impressionante, conoscendo la console, insomma, che faceva giocare, che faceva girare software molto abbastanza elementare, insomma. Sì, la vera tragedia è che il quarto episodio non era male, solamente che rinnegava tutto quello che era stato la serie precedentemente, quello sì. Infatti poi anche Lovecraft ormai è bello che è andato, si sa, riprende un po' lo stile un'altra volta di Giga, che evidentemente ha ispirato tantissime produzioni, però la cosa che veramente non si poteva tollerare era lui, il protagonista, Carmi, che, cioè, a parte il fatto che come è possibile che lui sia ancora vivo nel 2001, prima di tutto, ma poi come l'hanno conciato tutto, che come ti sei il ridotto, corpo, come, cioè, ti vesti, sì, prendo Eric, come si chiama, Eric del corpo, cioè molto gotico, no? Portava un pochettino, vabbè, sì, lì c'era pure un discorso di tendenza, no? Che andava un po' questa sì, cosa un po' gotica, sì. Però in realtà il gioco è il problema è che il gioco non era neanche così malvagio. Peccato, perché no, ma infatti poi i soldi c'è, l'impegno ce l'ha comunque sempre messo la Infogrames, cioè, per fare queste cose, e anche nell'ultimo poi Alone in the Dark, quell'inferno, quello che poi su PlayStation 3 fu sottotitolato Inferno, era aveva comunque delle buone idee, secondo me si ispirava anche un po' a Silent Hill in certe cose, tanto per rubare idee ad altri, insomma, e non era così male secondo me. Poi a un certo punto si è anche persa la fiducia nel brand, e quindi anche adesso, no? Adesso è in arrivo un altro episodio di Alone in the Dark che si chiama Illumination, che dovrebbe uscire a breve, cioè si parlava della prima metà comunque del 2015. Non è che stia facendo un gran parlare di sé, insomma, quindi vediamo come va, potrebbe essere spero non un flop commerciale, perché poi vorrebbe dire comunque gettare nel dimenticatoio un po' la serie. Ma non è che forse somiglia vagamente un po' come concept a Left 4 Dead, perché ho visto che ci sono quattro personaggi, sì. Quello un po' è un cooperativo, allora sì. È un po' come Borderlands, Left 4 Dead, questa roba qui, sì, siccome avevano copiato Resident Evil, Silent Hill, esatto. E era rimasto fuori Left 4 Dead, allora prima di scomparire proviamoci anche qui. Però dai, non si sa mai. A livello di eredità, in realtà c'è una cosa che venne fatta con la stessa tecnologia di Alone in the Dark dalla Infogrames prima del quarto episodio di Alone in the Dark, che si chiamava Time Gate, in italiano il segreto dei Templari. Ora lo so cosa dei Templari, non so, sì, cosa, sì, state, sì, pensando sul segreto dei Templari, invece no, perché è uscito prima di Broken Sword. Lo so che sembra un colpo di scena, ma ai tempi i Templari non erano sovrautilizzati come adesso, che l'hanno messi pure Assassin's Creed, stanno comunque, quindi sì infatti, che era un gioco che io ricordo che inizialmente lo provai su, vabbè, mia colpa, sui Twilight, avete presente quelle compilation? Vabbè. No, non so di cosa stai parlando. Esatto. E vedevo che c'era una specie di improvement grafico, perché ricordo questa cosa del personaggio che si avvicinava a una finestra e veniva illuminato, quindi c'era qualche tipo. Sì, ma poi era tutto texturizzato, esatto. Lì anche da tutti i personaggi. Bravo, sì, esatto, c'era proprio una era beh, certo, era comunque del 95, se non sbaglio, del 96, 95, quindi comunque era passato qualche tempo. Il gioco ovviamente non era poi horror come poteva essere Alone in the Dark, anche quello doveva far parte di una serie che poi si è fermata, purtroppo, però non era malvagio, era Alone in the Dark, nell'assenza era Alone in the Dark, coi Templari, era proprio la stessa cosa. con più cutscene, sai, un po' come il terzo episodio, ricordava molto il terzo. Sì. Però non era male, anche perché poi appunto il tema dei Templari non era stato sovrautilizzato ancora, non si trovavano ovunque. Mentre poi invece, non so se questa cosa si può dire riguardo alle avventure grafiche che fecero su Cthulhu successivamente, si può approfondire un attimino questa parte, andiamo off topic. No, ho paura di andare off topic qui, perché non lo so, perché Alone in the Dark... Ma non c'è Pizzi, tranquillo. Alone in the Dark inizialmente provarono a prendere i diritti dalla Chaosium, credo si pronunci, che è la casa che detiene i diritti del gioco di ruolo di Call of Cthulhu, il richiamo di Cthulhu. E provarono a farlo uscire sotto l'etichetta con Cthulhu, ma la Chaosium si oppose, e quindi uscì come Alone in the Dark, proprio, cosa che poi si rivelò un errore per loro, perché fecero un sacco di soldi, quindi per essere mia, artista, cioè. Però invece e anche perché poi hanno fatto uscire Call of Cthulhu su Xbox e PlayStation 2, esatto, negli anni 2000, qualcosa che neanche lì era un gioco di ruolo, esatto, quello poi fu già molto dopo, sì, esatto. Invece precedentemente la collana Call of Cthulhu uscirono due giochi, sono due avventure grafiche di cui abbiamo anche un pochino parlato in Calavera Caffè. Una è molto famosa, Shadow of the Comet, che mantengono, una è Shadow of the Comet, l'altra è Prisoner of Ice, e entrambe mantengono la mitologia lovecraftiana, che questo è l'elemento che la fa gli fa scrivere tutti e tre i giochi nella trilogia ideale di Lovecraft, o meglio di Cthulhu, no? Perché poi in effetti si parla di Cthulhu. Ora, io, a parte il fatto che Shadow of the Comet mi faceva una paura che ho potuto accennare, sì, quelle immagini fantastiche, mi ricordo era tremendo, cioè faceva una paura, tremendo, l'indiano di Shadow of the Comet, che ancora mi sfottono su Calavera questa storia, e non sulla Calavera, vabbè, c'era l'indiano che adesso non ricordo il nome, ma faceva una paura immane. Però era un'avventura grafica, anche se c'erano delle sezioni che adesso sarebbero proprio inaccettabili nel genere classico delle avventure, perché si moriva ogni 3 secondi. Ma poi c'era un'interfaccia, se non ricordo male, di quelle veramente improponibili, anche... tutto da tastiera. Sì, perché lì, guarda, la cosa forse che ricorda più quell'interfaccia lì è quella di Grim Fandango, figurati, cioè, perché lui guardava con gli occhi l'oggetto, si vedeva una specie di linea che partiva dagli occhi, così capivi cosa stavo guardando. Sì, poi dovevi usare la tastiera, mi sembra che la versione CD cominciarono, diedero anche l'opportunità di, la possibilità di usare il mouse, ma non funzionava bene, era una roba, un aborto proprio. Però in realtà il gioco era molto atmosferico, faceva veramente paura, e con queste sezioni poi verso la fine c'erano delle sezioni semi-action in cui dovevi scappare, una sorta di labirinto dove ti usciva fuori di tutto, faceva molta paura. E la cosa interessante, il link con Alone in the Dark, è il fatto che in Shadow of the Comet si parla come spunto proprio di partenza per la trama del diario di un certo Boleskine, che è un diario che viene letto effettivamente da Carmi nella famosa biblioteca di Alone in the Dark 1. Nella stessa biblioteca si trova anche un libro che parla dei prigionieri del ghiaccio, che sono appunto i demoni del terzo episodio, che ancora una volta era diverso dagli altri due, cioè laddove Shadow of the Comet era diverso da Alone in the Dark, Prisoner of Ice era diverso dagli altri due, era molto meno horror, più fantascientifico, c'erano anche dei salti temporali a un certo punto, però si collegava con Shadow of the Comet in maniera decisamente più incisiva rispetto ad Alone in the Dark, perché a parte il fatto che si incontrava il protagonista di Shadow of the Comet, che mi sembra si chiamasse John Parker, qualcosa del genere, non ne ho idea, sì, poi c'era un finale in cui tornavi a Ailsmouth, che era appunto questa cittadina immaginaria dove succedeva di tutto, tanti racconti di Lovecraft. Ovvio, mi sembra che si scriva in modo diverso rispetto ai racconti di Lovecraft, che è una specie di mezza citazione, però su questo non vorrei dire una stupidaggine, quindi se ho detto stupidaggine non farò un'errata corrige stavolta. E quindi nel finale tornavi anche qui in questa cittadina, quindi incontravi di nuovo l'indiano, che però non faceva parte paura come in Shadow, quindi si era calmato pure, esatto. E quindi c'è questa trilogia, che sono tutti di buona qualità. Fra l'altro il terzo episodio, Prisoner of Ice, riprendeva se non sbaglio fu una delle prime avventure di stampo classico a utilizzare i personaggi in 3D in un, nelle ambientazioni bitmap, che è una cosa che sì, lo so che è stata fatta anche in Alone in the Dark, però nell'avventura grafica di stampo classico, se non sbaglio, era una delle prime volte che si vedeva, tant'è che era molto, molto carina, molto, molto efficace, contrariamente a Shadow, che se non sbaglio era completamente in, in 2D. Shadow è superiore a Prisoner come gioco, però sono, sono tutte e tre interessanti, quindi questa è la trilogia ideale della Infogrames, che probabilmente in toto vale di più di quella poi di Alone in the Dark in, in qualche modo, anche più coerente. Sì, sicuramente, cioè, sì, infatti come coerenza come sicuramente eredità, sì. Bene, bene. Beh, abbiamo un po' analizzato, possiamo dire, tutto il vissuto di Alone in the Dark, il poco vissuto, diciamo, se pensiamo ai mostri, ma possiamo lanciare la retrorassegna stampa di Morgan, che ci racconterà un po' che cosa hanno detto le riviste a proposito di questi videogiochi. Ascoltiamola perché è molto interessante. Cari amici di Archeologia Videoludica, benvenuti alla nostra retrorassegna stampa dedicata questa volta ad Alone in the Dark, il capolavoro Infogrames pubblicato per PC nel 1992. Andremo alla scoperta, senza soluzione di continuità, dei vari articoli pubblicati nel corso degli anni sui capitoli di questa serie, concentrandoci principalmente sulla stampa italiana per poi chiudere con quella francese. Iniziamo con la critica cartacea prodotta nel bel paese. The Games Machine numero 47 di novembre 92, in un numero di ben 140 pagine, tra le anteprime di Uridium 2 e di Cannon Fodder, ci domanda: vi siete mai chiesti cosa fossero quei veloci movimenti negli angoli bui delle vecchie case di campagna? Quegli strani rumori, quelle sensazioni? Beh, se avete sufficiente fegato, potete scoprirlo cosa sono e da dove vengono, con Alone in the Dark, top score del mese. Devo proprio ammettere che Alone in the Dark è a dir poco eccezionale. L'avvento di Alone in the Dark è paragonabile a quello di Another World. Mentre uno è un platform arcade adventure, l'altro è un gioco di esplorazione, ma realizzati in maniera completamente nuova. Tutti e due utilizzano i poligoni e Alone in the Dark lo fa in maniera eccellente. Voto globale 97%. Facciamo un balzo avanti nel tempo e sempre The Games Machine, nel luglio del 2008, in uno speciale dedicato ai videogiochi horror, dedica ben 6 pagine al classico della Infogrames. Alone in the Dark metteva in scena un protagonista fisicamente unico e lo rappresentava con una grafica mai vista. Siamo assaliti dalle creature che lo scrittore inglese Lovecraft descriveva nelle sue opere. E parlando di Alone in the Dark 2, in Gran Bretagna Alone in the Dark 2 venne definito disturbante, dannoso per l'equilibrio mentale dei bambini, tanto da renderli insicuri a vita. Ancora su Alone in the Dark 2, questo è un gioco molto più arduo da terminare, anche a causa della regia efficace ma ballerina, che rende le sparatorie poco gestibili. E ancora, leggiamo, la trilogia di Alone in the Dark non solo inventò un genere, ovvero quello di survival horror, ma introdusse un fresco gameplay applicato agli arcade adventure. Venne quindi da chiedersi come mai la Infogrames non abbia spremuto a fondo la gallina dalle uova d'oro, sfruttando quanto più possibile il concept di gioco. Il tentativo in effetti ci fu. Nel 96 uscì Time Gate, il segreto dei Templari. Proponeva una versione pompata del vecchio engine, nato nel 92, con varie rifiniture interessanti per quanto riguarda l'illuminazione. Il segreto dei Templari si può definire come un titolo apprezzabile ma di scarso carisma, e le basse vendite vanificarono i buoni propositi iniziali. Passiamo a Z numero 1 di febbraio 95, che dedica un'eccellente recensione a Alone in the Dark 3, che vi consiglio, troverete nelle note dell'episodio per una lettura integrale, illustrando come questa terza incarnazione viene ambientata in un villaggio abbandonato della frontiera americana, trasformato nella metà degli anni 20 in un set cinematografico, nel quale iniziano a succedere strani incidenti, attori che spariscono ed eventi inspiegabili. Ma anche se il risultato rimane a dir poco spettacolare e cinematografico, persino ad anni di distanza dall'uscita del primo Alone in the Dark, purtroppo anche in questa nuova puntata, per i limiti dello stesso engine grafico, si incontreranno gli stessi difetti degli episodi precedenti, come ad esempio angoli ciechi e inquadrature infelici che vi impediscono di vedere alcune zone della stanza. Segue una sorta di tutorial fotografico con i primi 20 passi da fare per addentrarsi nell'avventura. E l'articolo conclude: avventura ricca e coinvolgente, aree di gioco molto più grandi che nei primi due episodi, possibilità di scegliere il livello di difficoltà, gioco completamente in italiano, audio compreso, e 10 salvataggi che vi permettono di continuare anche se rimanete bloccati. Voto 8. Passiamo a CPUVG in una preview che prevede l'uscita per PC di Alone in the Dark 2 all'imminente novembre. Sottolinea la maggior cura nella qualità e nella quantità delle animazioni, migliore gestione degli oggetti 3D e dell'intelligenza dei personaggi, maggiore velocità di svolgimento dell'azione e un look complessivamente più realistico. Per una 50 di ore di gioco complessive. Game Republic numero 1 di ottobre 99, in uno speciale per Dreamcast, preannuncia, insieme a Baldur's Gate, Carrier e Air Force Delta, l'uscita del primo Alone in the Dark con queste parole: dopo aver aperto la strada a Resident Evil, i ragazzi della Infogrames cercheranno di dimostrare a tutto il mondo che hanno ancora qualche asso nella manica. Passiamo a K del novembre 92, che recensì l'originale Alone in the Dark nel suo mese di uscita, in una prova su schermo molto dettagliata. C'è un elemento comune che lega i racconti di Lovecraft: la sensazione quasi tangibile del pericolo incombente. La paura e la tensione tengono il lettore costantemente col fiato sospeso, come se il personaggio ad ogni passo potesse trovare l'orrore che più o meno consapevolmente è andato a disturbare. È difficile mantenere questo tipo di atmosfera in un gioco di avventura, eppure la Infogrames c'è riuscita. Il gioco si presenta avvincente fin dalle prime battute, con una curva di difficoltà ben calibrata e gli enigmi che si fanno via via più difficili. L'atmosfera, grazie anche al sonoro, diventa sempre più tesa e il giocatore viene costantemente tenuto sul chi vive e col fiato sospeso. I problemi, che in gran parte si risolvono prendendo un certo oggetto e portandolo nel posto giusto, non sono mai troppo illogici e possono essere risolti con un minimo di ragionamento o, al limite, con l'aiuto di qualche indizio. Si tratta in definitiva di un'avventura molto ben realizzata e dotata di ottima longevità, che vi terrà incollati allo schermo fino a che non l'avrete risolta. Lovecraft ne sarebbe certamente fiero. Mega Console numero 13 preannuncia l'uscita della versione per 32X. Z di marzo 95, che in copertina si chiede se Apple punti sui videogiochi, dopo aver recensito Alone in the Dark 3 nel numero precedente, in questo pubblica un'approfondita soluzione ad opera del lettore Andrea Giolito di Milano. La rivista di retro gaming RHM numero 1 afferma che il primo Alone in the Dark fu una rivoluzione radicale della concezione di gioco cinematografico. Se in Another World sorprese il pubblico per la sua qualità narrativa e per la spettacolarità delle animazioni, rimanendo comunque un platform bidimensionale, Alone in the Dark squarciò il panorama degli action adventure, incastonando in esso un modello di gioco basato sulla tridimensionalità e non solamente come esercizio grafico. La resa dell'atmosfera soprannaturale della villa è magnifica, sia come uso della regia, sia come realizzazione degli elementi presenti, con un forte contrasto tra la tranquillità di una casa di campagna e la malefica presenza di creature impossibili. La rivista PlayStation Mania 2.0 di maggio 2001, editore Play Press, pubblica la prova di Alone in the Dark 4 per PlayStation e rivela che per realizzare le fisionomie dei personaggi e delle creature presenti nel gioco, gli artisti della DreamWorks hanno realizzato delle splendide sculture che sono state poi successivamente tracciate e digitalizzate con uno scanner 3D. E ancora leggiamo: credeteci, correre per un silenzioso corridoio immerso nell'oscurità con esseri mostruosi che sbucano dal nulla e cercano di farvi fuori è davvero emozionante. Per completare il gioco vi serviranno circa 15 ore, ma visto che gli enigmi, gli scenari e i dettagli delle trame cambiano in base ai personaggi, la durata va praticamente moltiplicata per due. CPVG numero 33, in una preview nella quale preannuncia l'uscita di Alone in the Dark 2 versione PC per il successivo febbraio, racconta che la trama di questo gioco sarà incentrata su Charles Lindbergh, ovvero il primo uomo a compiere la trasvolata dell'Atlantico. 13 anni dopo questa impresa, la figlia di Charles, Josephine, venne rapita. I genitori pagarono il riscatto, ma la bambina fu restituita morta. Ora la Info Games hanno deciso di sfruttare questo plot per realizzare la storia del gioco. In vari punti dello stesso il controllo passerà dall'investigatore alla bambina. Per esempio, dopo aver liberato la piccola, il nostro detective verrà imprigionato e a quel punto toccherà alla piccola liberarlo. Da quanto ci è stato detto, nel gioco dovrebbero essere presenti ben 5 di questi swap. Bene, dopo aver passato in rassegna la stampa nazionale, passiamo all'estero. Ed è doveroso per un prodotto realizzato oltralpe dare un veloce sguardo a ciò che ha espresso la critica francese sul primo Alone in the Dark. Il numero di settembre 1994 della rivista Consoles pubblica la recensione della versione 3DO, in cui la grafica viene definita interessante ma con qualche bug. Nel complesso un lavoro ben fatto, con animazioni lente e ben realizzate, ed enigmi che garantiranno notti in bianco. Il voto viene ridotto al 91% e non al 100% perché il gioco non rispetta i romanzi originali di Cthulhu, da cui è tratto. Generation 4 di novembre 92, in un'accurata recensione su 4 pagine dedicata alla originaria versione per PC, afferma che la Info Games ci ha donato il miglior gioco mai visto su PC. Ognuno dei 90 oggetti di gioco possono essere manipolati e usati in modo diverso. Ogni volta che salvate una partita viene scattata una istantanea dello schermo che troverete al caricamento. Voto 97%. Sempre a novembre 92, la rivista Joystick, tra la recensione di Street Fighter 2 per Amiga e il rinvio di Shadow of the Beast 3, definisce la grafica 3D calcolata in tempo reale come una netta evoluzione di quella di Another World. I cambi di inquadratura a grandangoli sono di grande effetto. Peccato per la musica, troppo povera. Da quel punto di vista si poteva fare di più. La recensione termina con un lungo estratto dai testi originali di Lovecraft e un voto del 97%. Ancora la stessa rivista Joystick, ma stavolta nel numero di agosto 95, pubblica la prova del primo Alone in the Dark, ma in versione Mac, pubblicato stranamente dopo l'uscita del primo capitolo, per cui ammette che il primo capitolo è ormai invecchiato e, pur essendo una piacevole avventura con molto ancora da scoprire, consiglia l'acquisto del più moderno secondo capitolo. Bene, da Morgan con questo è tutto, e segnalandovi che le scansioni degli articoli citati in questa rassegna sono scaricabili nelle note dell'episodio, da un bel saluto a tutti con l'appuntamento alla prossima puntata. Bene, ancora grazie a Morgan per la spettacolare rassegna stampa. Però non si può sentire comunque scrittore in inglese. Vabbè, no, perché Morgan l'ha letto, quindi vabbè. Lo so, ma anche voi, purtroppo c'è gente che oggi scrive sui giornali. Non so tutti come Luigi, E quindi ecco, siamo arrivati alla fine, diciamo, di questo nostro excursus su Alone in the Dark, che chiaramente ha rappresentato un momento importantissimo della storia dei videogiochi, che, come ha detto Cristiano, è stato coltivato subito, ha seminato, insomma, proseliti subito dopo con queste avventure grafiche dedicate a Lovecraft, della trilogia, della cosiddetta trilogia dell'Infogram, e poi anche un po' di altri survival horror. Abbiamo detto che c'è stato un Call of Cthulhu per PlayStation 2 e Xbox che è stato molto apprezzato, un gioco molto d'atmosfera, chiaramente un first person shooter fondamentalmente, e anche qualche avventura grafica mi viene in mente, tipo il Necronomicon, non so se tu l'hai giocato. Sì, è tremendo, quello fa paura, brutto. Sì, però per altre ragioni, esatto, per altre ragioni, veramente era quel periodo in cui c'erano tutte queste avventure in prima persona con movimento della testa a 360 gradi, sì. Che però erano fatte veramente con un po' come capitava, diciamo. Questo era uno delle peggiori, secondo me, veramente, sì, che giravano in quel periodo. Poi un gioco che secondo me e lovecraftiano, ora forse magari Conan in the Dark proprio non ha tantissimo da spartire, nonostante sia un survival horror, era Eternal Darkness, giocato su GameCube. Tu, Luigi, hai un'esperienza a proposito? Sì, lo giocai forse qualche mese dopo l'uscita, se non un annetto più o meno. Uh-huh. Ed è sviluppato, scusatemi se sbaglio, da Silicon Knights. Esatto, sì, sì. Si tratta di uno dei, secondo me, dei videogiochi che richiamano in maniera vincente e ricombinano quegli elementi survival horror che sono poi mutuati dal primo Resident Evil di Capcom, da un punto di vista, parlo, strutturale, estetico. Uh-huh. Stavo pensando che, tra l'altro, era anche il periodo in cui veniva riproposto il remake di Resident Evil su GameCube, nonché veniva riproposto il secondo e il terzo capitolo in una versione, diciamo, che riprendeva pari pari con la PlayStation 1. Giusto due parole su questo videogioco. Finalmente torna il mistero legato, dal punto di vista, all'esoterismo, alla magia, a quegli aspetti che dovrebbero connotare il tipo di scrittura di videogioco che in qualche modo è lovecraftiana. Ecco. Uh-huh. Quello che mi è piaciuto di Eternal Darkness, oltre ad essere ovviamente conosciuto per questo aspetto di terrore, di tensione, di giocare un po' con la mente del videogiocatore, perché si possono accadere durante il gioco degli effetti strani, appaiono delle cose su schermo che non dovrebbero esserci, appare lo schermo può anche tendere, diciamo, a spegnersi o a bloccarsi, resettarsi, c'è qualcosa ovviamente che gioca sulla sanità mentale del videogiocatore, ovviamente più che la sua sanità, ovviamente del personaggio. E niente, fondamentalmente è ancora quel gioco che porta avanti il vessillo, lo scettro del mistero, della paura legata all'ancestrale, a ciò che non si vede, quindi all'invisibile, alle categorie dell'invisibile. E secondo me anche proprio alle categorie del, più che dell'orrore, del terrore, che in quegli anni poi sarebbero state ridefinite totalmente, soprattutto con il survival horror, con Resident Evil 4, che quando uscì fondamentalmente cancellò quelli che erano gli aspetti cinematografici della telecamera fissa o degli ambienti, diciamo, renderizzati, a favore di un 3D a 100%. Okay. Sì, infatti è ancora uno dei, ogni tanto quando vedi delle classifiche anche dei migliori survival horror di sempre, oppure addirittura dei migliori giochi per GameCube, a volte spunta sempre Eternal Darkness. È rimasto veramente impresso a tantissimi giocatori e in un certo senso ha fatto anche la fortuna del suo sviluppatore, perché poi i Silicon Knights uno li ricorda praticamente soltanto per per questo gioco, visto che hanno preso un po' di cantonate più avanti. Sì. Bene, allora io a questo punto vi saluterei per questa puntata. Vi ringrazio moltissimo di avermi fatto compagnia in una puntata senza pizzi, che quindi ha aumentato il suo quoziente di difficoltà in una maniera improponibile, però insomma, dai, ce l'abbiamo fatta. Sì. Grazie a te, Gianluca, dell'invito ed è per la conduzione, hai portato avanti egregiamente, secondo me, l'obbligo del rimpiazzare la fattispecie Pizzi. Speriamo, poi mi dirà Pizzi in persona e lui il test probante la cosa. Grazie mille, Luigi, ciao. Cristiano, saluto anche te. Mi vuoi fare compagnia per caso con la posta? Sì, dai, ti faccio con me assolutamente compagnia per posta. Poi ti saluto dopo, così ti faccio un po' la spalla, dai. No, te lasciarti solo sarebbe crudele a questo punto. Oh, grazie. Allora lanciamo prima il distruggitore col suo Kittes in Google. C'è nessuno? È buio. Apri la porta, no? È buio. Apri la porta e tienila un po' socchiusa. Guarda, se guardi in basso a sinistra, lo vedi? No, è buio. Allora, tu, se tu sposti un pochino la porta, la apri, prova un pochino. Fa un rumore brutto. È normale. Allora, tu adesso che fai? Visto che adesso c'è un po' di spirali di luce, tu in basso a destra vedi che ci sta una scatola di sofficini. Prendila e mettila tra la porta e il bordo del frigo. Non puoi trovare un sistema di illuminazione, eh? No. Non è perché si parla di Alone in the Dark, dobbiamo stare in the dark. E soprattutto dovremmo stare alone. Alone, io me ne vado e tu rimani alone. E io sono alone, in the dark. In the dark. E adesso sono in compagnia in the light. In the light, vabbè. Però sento strani brutti rumori. Ma questi brutti rumori sono perché ha peperonata. Forse. No, forse non so. Ah, tu dici, ma quella dovrebbe essere più una la faciolata allora. La fasulata. Non so cosa saranno, che sono questi rumori. Non saprei. Non sapresti. Vabbè, senti, siamo qui per parlare di, appunto, l'abbiamo sì, detto. Sì, perché io adesso, quando tu te ne vai, io chiudo il frigo, lo riapro da un'altra parte e esco, perché non lo so, c'è un'aria strana, pesante, piena di rumori. Pensavo fosse rumori del buio, da solo. Esatto. Poi non so, m'hanno portato quella cassa panca lì. La vedi quella cassa panca? No, quella lasciala lì. Non la spostare, perché c'è tipo una botola sotto. È meglio che non. Io me la stavo spostando. No, è meglio che non la sposti. Senti, sono entrato. Tum sotto. Ah. È meglio che la lasci stare. Non è dentro la cassa banca il tum. Che infatti stavo cercando di capire che era. Cioè. Però se la apri, sono uscito, trovi un fucile. Sono tornato e ci ho trovato sta cassa banca messa lì. E c'era scritto non spostare. Non la spostare. Però io pensavo fosse, non lo so, una cosa. No, però se tu la apri dentro c'è un fucile. C'è un fucile. A pompa. Con tipo 5-6 proiettili, non di più. Ma mi potrebbe servire? No. Ti potrebbe servire. Frigo, che sì. Ma se te dovesse iniziare a servire, secondo me non arriviamo. È troppo tardi. Non arriviamo. Vabbè, lasciamo lì. Vabbè. Allora in The Dark, noi nella puntata abbiamo parlato di The Dark. Sì, questo stupendo gioco che chi non ha mai giocato? Chi non ha mai giocato? Tu non l'hai giocato. Io non l'ho mai giocato, però ho giocato i remakes. Quindi... Ma non hai giocato i remakes, non ci sono mai stati i remakes. Beh, più o meno, diciamo reboot. Ma sì, ecco, forse reboot, forse è il termine giusto, ma non hai mai giocato l'originale. Sebbene ti ci sei messo a giocare l'originale. Come no, ci ho provato. Ci hai provato, perché sei andato, dove sei andato? Su RGB? Su RGB Classic Games, che è un sito assolutamente illegale, se non ce lo possiamo dire tranquillamente. Non lo so, no, se lo sappiamo. Se lo fanno, lo possono fare. Loro lo possono fare, noi ne possiamo parlare, loro lo possono fare. Magari loro hanno licenza per farlo. Certo. Ma anche perché se parliamo di mafia, non è che siamo mafiosi, parliamo di mafia. Quindi, se noi parliamo di un sito che fa questo gioco, parliamo di questo gioco. Questo gioco messo in Java, esatto. Bisogna installare l'ultima versione di Java, disinstallando quella precedente. Però non è detto che funziona. No, ma funziona, io ci ho giocato. A te sì, a me non mi funziona. È praticamente il vecchio gioco, quello di Alone in the Dark. L'originale, esatto, quello che praticamente il personaggio è un triangolo. Esatto, sì, è un po' spigoloso, Però è bello, si può giocare, basta un po' capirci con i tasti, spenderci qualche minuto per capirci qualche cosa, però si può giocare, è giocabile. Poi se proprio volete dare uno sprint in più al gioco, no? C'è anche una rivisitazione, tu l'hai provata la rivisitazione? No, l'ho provata, no, c'è sempre il magico mondo di YouTube. Nel quale che è sto rumore? Che è? La cassapanca batte? No, è il video. C'è questa modificazione, questa mod che praticamente si chiama New Alone in the Dark, che è fatta con Blood. Chi di voi non ha mai giocato con Blood? Beh, Blood sì. Io no, manco con quello. Però manco comunque bene. Conosco... C'hai avuto un'infanzia infelice. Infelice. Ti sei perso veramente... Mi sono perso il Blood. Il fatto che farlo oggi non ci sarebbe... È bello perché la mod c'ha questa casa che ricorda molto... Esatto. A parte l'inizio che c'hai giro, sì, con le mani che fai così, non si sa per quale ragione, però ci sono, che ne so, alcuni elementi che ricordano un po' la villa, la ricorda gli enigmi, no, però sono che strilla e urla, esatto. Che lancia la dinamite dentro casa, come nel esatto, insomma, no, esatto. Però vedi la cucina, ricorda mani dentro, no, quello sangue, non c'è. Però vabbè, la ricorda, c'era anche l'uomo con l'armatura che si muoveva, lo ricorda, quindi complimenti a chi ha fatto questo mod. Linkeremo mod database la pagina, così se avete Blood potete giocare a questa mod. Vi linkiamo sia la pagina che ne parla che il video su YouTube, perché secondo noi comunque sono cose se che se proprio non vi fate riinstallare perché funziona in DOS, forse è quello il problema. Chiaramente. Se proprio non vi fate rigiocarvelo, di riprendere il vostro Blood e moddarlo, potete guardarvelo tranquillamente su YouTube. Invece ha parlato proprio di remake, perché vedi, io avrei potuto giocare un remake, però purtroppo non si può fare, non si può fare, non perché si può. La società che lo sta facendo, società forse è una parola grossa. Vabbè, non so, tu hai letto l'articolo? Sì, no? Sì, era una società che non ricordo, magari era formata da una persona sola. Questa era bella. Stava facendo proprio un remake in altra definizione, diciamo con motore grafico 3D, insomma, moderno. Esatto. Potrebbe essere Unity, secondo altra me. Definizione, altra definizione rispetto all'originale, e quindi ha ricostruito in 3D quello che era già in 3D, ma è in 3D, tutto maiuscolo, esatto. Proprio perché sembra no, quasi un gioco no, moderno 3D spicoloso, sì, sembra un gioco moderno di una o due generazioni massimo fa, però potrebbe anche essere ultima, insomma. Sì, sì, perché non sappiamo, sono belle ombre, insomma. Considerando che il gioco non era completo, era una pre-alpha, esatto, che non c'erano ancora tutte le texture, roba del genere. Assolutamente senza texture, c'è solo il 2% delle texture del, insomma, di questo il gioco è un po' molto spicoloso, roba del genere, però c'aveva cambi di inquadratura, anche movimenti sono di camera. Sì, e sono i quick time events. E c'era quello che mancava nel primo, esatto. Fondamentalmente, cioè le ombre e le luci che esatto. Non c'erano nel e il buio, perché ero in The Dark, ma non c'è The Dark, non c'era assolutamente niente. E ci sono anche i quick time events che ti permettono di salvare la situazione in alcuni casi. È un po' modernizzato. Esatto, diciamo. Esatto, hanno rivisto qualche cosa, metto qualche... Sì, qualche enigma diverso. Esatto, ha modernato anche quello, però insomma rende... Io ci ho giocato a questo. Perché con questo ci avrei giocato pure io, sì. Ma non c'è, io ho giocato pure quello originale, devo dire il vero. E avrei rigiocato solo questo qua, perché oggi rigiocare con l'originale è pesante, cioè... è un po' pesante. Oh, che è questo rumore? È sempre sul video che è entrato. Sicuro che la video, sì, sì. Perché mi sento che dietro. Vabbè, comunque, insomma, io ce l'ho giocato perché poi ti fa vedere anche le varie opzioni, cioè metti, sposta la cassapanca, scosta l'armadio, usa il quick time, insomma. Sono ombre che a volte ci sono, a volte no, diciamo. Ma una pre-alpha, dai, una pre-alpha, cioè non possiamo chiedere di più. Peccato perché insomma meritava una chance, però purtroppo non ci potremo mai niente vedere. Non ci giocheremo mai. Vedete il video perché è una cosa molto molto carina. Anzi, se qualcuno ha qualche informazione ce la dia, perché in realtà non sappiamo proprio, cioè, perché è morto il progetto. Sono finiti i soldi probabilmente. Ok, poi c'è poca roba stavolta, diciamo la verità. Perché c'è tanta roba, ma poca di interessante, perché c'è tanta roba sul vecchio gioco, ma mai su, che ne so, su mod, su cose particolari che fanno un po' ridere o che comunque fanno un po' discutere, cioè, di quello poca roba. Però c'è sul sito nostro affiliato, associato, ammorbato anche da noi, Old Games Italia, c'è un tizio, un signorino che si chiama Ray1184, che praticamente non sappiamo perché e chi glielo fa fare. Sì, vabbè, la passione. Oh, che è questo rumore? No, boh. Che ne so, io sento sempre questi rumori da dietro. È sotto, non è dietro, è sotto. L'importante è non muovere. Che praticamente sta facendo, da quello che ho capito, un remake vuole fare di sua sponte? No, diciamo che lui sta ricostruendo, anche se poi abbiamo spiegato con Sant'Agostino che in realtà non aveva un vero e proprio motore grafico, sta costruendo un motore grafico che emula praticamente quello originale di Alone in the Dark, così per eventuali future applicazioni. Nel senso, dice, se vogliamo fare un gioco che ricorda Alone in the Dark, indiscutibilmente migliore, cioè detto fra noi, però è bello perché su questo post nel forum di All Games Italia, poi vi linkeremo cioè tutta la sua spiegazione, anche le varie evoluzioni, ci sono anche dei video che fanno vedere insomma come si muove sto motore, ci ha messo anche degli effetti tipo il seppia, sai, queste cose qua, insomma. Qual è l'utilità? Restiamo con questa domanda, esatto. Qual è l'utilità? A volte è bello, andiamoci, è bello anche non rispondere, sì, sì, assolutamente. Però devo dire che è encomiabile nel senso che evidentemente, amico mio, ti vogliamo bene, ma sicuramente c'hai poco da fare, insomma. No, beh, scherzo, non vogliamo insultarti. Pensa che con il motore appunto di Alone in the Dark, che come abbiamo capito non era un motore, però poi dopo chiaramente lo è diventato, ce l'ha spiegato ovviamente Sant'Agostino prima, e c'è uscito un altro gioco che era più figo, perché era sempre con la visualizzazione, lo stile, lo schema, insomma, di Alone in the Dark, però cominciava ad avere delle ombre, cominciava ad avere delle texture un po' più evolute. Come si chiamava questo gioco? E si chiamava, dimmelo tu. Allora, aspetta, Time Gate, il segreto dei Templari, Templari, perché era un Giacobbo. Era un periodo in cui i Templari li mettevi dappertutto. Esatto. Cioè, ma come Giacobbo li mette un po' dappertutto. Tra te non c'entrava niente, Time Gate, tira sulla la cosa del cesso e ti c'è un Templare. Tra l'altro questo gioco c'ha una particolarità, c'ha due particolarità. Uno, che nonostante essere più stato esteticamente più bello di Alone in the Dark, non se l'è cagato nessuno. E due, la questione del segreto dei Templari, se non mi sbaglio, potrei dire, è sta solo nel titolo in italiano. Cioè, nel senso... Perché si chiama Tanghetta? In realtà il gioco non c'entra niente con i Templari, però insomma, è una cosa bellissima. Andate a cercare su YouTube per vedere. Perché su insomma. Wikipedia c'è la trama, leggiamo la trama. Nel 1996, William Tibbs, che è quello dell'ispettore di Tibbs, ricordiamocelo, quello lì che è, giovane americano studente di legge a Parigi, per salvare la sua fidanzata Juliette, dovrà confrontarsi con Wolfram, la volpe della grossa criniera. Giovane americano a Parigi, originale, eh? Assolutamente. Secondo me questi ci hanno avuto qualcosa a che fare con quelli di Broken Sword. Può essere. Che si è alleato con le forze delle tenebre e scendere nelle segrete dell'ordine dei Cavalieri Templari. Ah, ci stanno i Templari. Vedi. L'ordine dei Cavalieri Templari del 1329. Quindi ti sei sbagliato. Cioè, no, mi sono sbagliato. So che nel titolo, però, il segreto dei Templari non c'è. Forse c'è. C'è il time Gate che non c'entra. Chi può dirlo? Può dirlo, in effetti, sì. Chissà, il titolo originale non c'è. Il titolo originale, vediamo. Avventura dinamica. Questo. No, non c'è. Il Time Gate, forse è questo. Sviluppato. Però deve essere una trilogia. Però siccome è andato male. Bene, cioè, tante cose, come il bambino di Grazio Invisibile, anche quello deve essere una trilogia, ma purtroppo, ahimè. È andato male anche. È andato a sultane, insomma. Cioè, abbiamo qualche altra cosa, ci trasferiamo, non fisicamente, ma diciamo tematicamente, dal, sì. dal videogioco al videofilm. Perché c'è un trailer che non capiamo bene da che cosa si è tratto, però è un fake. È un fake, no, questo tanto per galvanizzarvi di qualcosa che non esisterà mai. Perché in realtà è il preludio, questo fake, che non capiamo ancora il perché, il che cosa prende in giro. Forse prende in giro. Proprio Alone in the Dark nel suo insieme. Poi è fatto pure bene, sembra un trailer vero. Sono pezzi di film che veramente dovrebbe essere, cioè loro basano, chi l'ha fatto, basano una pseudo storia sull'ultimo Alone in the Dark, quello con Edward Carnby che lottava nel Central Park con i mostri, insomma. Ricordiamo che nel reboot questo tipo baffuto degli anni, dei primi anni 30, improvvisamente si ritrova, è un altro personaggio, ma è sempre lui, però 70 anni dopo. Però figo. Esatto. Figo sfregiato. Non è più... Ci sono cose che scoppiano, elicotteri, gente che spara, mostri di tutti i tipi, gente che scivola per terra, fuochi, esplosioni, ma insomma, è esattamente come in The Dark. No, nel senso, non nel suo brand originale, perché sappiamo che Alone in the Dark è nella sua versione originale, per quanto difficile, era comunque un action adventure, dove la parte adventure era anche importante, quindi anche cervellotico, lento, bisognava ragionarci, non potevi fare passi a cazzo di cane, dovevi fare attenzione a quello che facevi. Però questo trailer fake, che ribadisco ancora, non sappiamo bene di che cosa si tratta, ci dà il preludio per una cosa che io ho visto, di cui potrei anche parlarne. Vi linkeremo il trailer in tedesco. Io vi dico solo due perché parole. Perché in tedesco? Vi dico solo due parole. Appunto, Uwe Boll. Esatto. Perché in tedesco? Lo chiamo in tedesco per rendere omaggio al maestro. Il maestro del cinema trash, delle trasposizioni cinematografiche di videoludiche. Videoludiche. L'uomo che farebbe diventare brutto anche la trasposizione cinematografica di Mass Effect. Esatto. Che già di per sé potrebbe esserlo, però lui lo può far diventare più brutto. Voi volete fare un film brutto sui videogiochi? Datelo a Uwe Boll. E pensate che questo film io l'ho visto su Sky. Questo è brutto, insomma. No, vabbè, è vero che su Sky abbiamo visto pure. C'era anche After Earth. Apocalypse Earth. Di cui ci siamo persi Sharknado, però. Purtroppo sì. Ma rimedieremo. E questo film vediamo proprio Kevin Pacetta, appunto, che è il protagonista, fa Edward Carnaby. Perché c'è il mutuo pure lui, eh? Esatto, no, Kevin Bacon, insomma, non è che abbiamo detto Dustin Hoffman, insomma. E quindi esplosioni, botte, mitra, mostri, come esattamente è Postal, Alone in the Dark, no? Esatto. Cioè, proprio così. E poi vedete, lo potete anche andare a vedere in qualche videoteca oppure proprio illegalmente, fate come vi pare, insomma. Però tanto non gli date una lira, perché sennò poi Uwe Boll ne farà altri. No, quindi, esatto, mi raccomando, esatto. Anche perché adesso però aspettate, non datela a mangiare agli animali. Mentre che Marco vi dice una cosa, io cerco un secondo una cosa al volo, mi è venuta in mente da cercare un attimo su YouTube. Tu parla con non saprei che cosa dire, cosa, però se vi, se vi è piaciuto Alone in the Dark, non potete assolutamente perdervi tutti gli altri. Che vi devo dire, non lo so, insomma. Io personalmente ho cominciato l'avventura con Alone in the Dark con The New Nightmare. Non so se tu ci hai giocato, Pizzi, con The New Nightmare. The New Nightmare io lo comprai su PS2. Che è un gran gioco, erano due CD per PS1. Era praticamente, cioè, lo stesso numero di poligoni del primo. No, però c'è, no, aspetta, aveva gli stessi numeri di poligoni, solo che c'era le texture, che allora sembrava più bello. No, c'aveva i fondelli pre-renderizzati. Ma comunque, a parte quello, era un due CD, gran primo CD, veramente tanta paura, bei puzzle, quanto era merda il secondo. Allora, io vi lascerei nelle note dell'episodio, visto e considerato che più o meno, insomma... Dei rumori. No, è il trailer che ho fatto trailer. Partire. Perché a Uwe Boll non gli è abbastato. Davvero? Non gli è abbastato. Quindi tu vuoi dire che qualcuno è andato a vederlo, gli hanno dato dei soldi e ne ha fatto un altro? Ora, se gli hanno dato dei soldi non lo sappiamo. Diciamo che Uwe Boll fa i film a prescindere. Perché lui sfrutta loro nazista. O poi non sappiamo se questo trailer di cui noi stiamo vedendo sia vero o meno. Linkeremo, no, se è sempre lui l'autore o il regista, insomma. Tra l'altro non è un trailer, secondo me è proprio questo, è il film intero su YouTube, perché vabbè, vedo che parte proprio dai titoli di testa. Sì, questo è il film intero, uno dei 27 di trailer, cioè, come possiamo dire. E insomma, quindi possiamo anche fare una cosa illegale, Zach dire Ward, a tutti quanti, cioè, che c'è questo film, cioè, questo film noi ve lo linkiamo, poi se l'hanno messo su YouTube. Però c'è Natasha Malte, che non si sa che trailer. Che stiamo parlando, insomma, di un film. Ah, ma attenzione, c'è Michael Paré. Attenzione, non so che Michael Paré era un attore che andava molto negli anni 80. Faceva il belloccio, attore secondario. Okay. Beh, infatti è belloccio, dai, volendo. Sì, però, non è invecchiato male come quell'altro. Come quell'altro, l'altro quell'altro. Così ama? Adrian Paul. Quello è invecchiato veramente brutto. Sì, gli è presa male. Devo dire, penso che prima di fare quel film ha fatto di tutto nella sua vita, si era dimenticato anche che era. E stiamo parlando di Alone in the Dark 2. Perché diciamo che il primo non gli è abbastato, e penso che questo prenda un po' più spunto quasi dal videogioco ultimo, quello là, Inferno, lì, quello Inferno, no, come si chiama? Alone in the Dark 4. Alone in the Dark, questo è basta. Però non c'è Kevin Bacon, c'è sempre il protagonista. Purtroppo Kevin Bacon Kirby costava troppo, e quindi hanno deciso di fare un reboot, perché probabilmente questo è un reboot. Può dirlo, probabilmente. E c'è anche Lance Erickson, attenzione. E chi è? Lance Erickson è l'androide di Aliens, nonché Millennium, insomma, quindi Frank Black di Millennium. Vabbè, io direi che a questo punto vi abbiamo dato delle notizie di cui avreste potuto tranquillamente fare meno, però questo Pizza su Google. Ah, ma c'è ancora qualcosa? Andiamo. Ah, sì, ma andiamo a spulciare su Wikipedia. Vediamo cosa ci dice. Allora, che innanzitutto è in lingua inglese. Questa è una cosa non che... è stato mai portato in Italia. Non si sa. Comunque, è un film horror, definito direct to video. Quindi immagino sia stato fatto proprio per la televisione. Esatto, o proprio per dare proprio certi, cioè, tuo tiro dietro. Diretto e sceneggiato da Michael Rush e Peter Shearer, basato sulla serie videoludica, appunto, di Alone in the Dark. Il protagonista, come al solito, è Edward Carnaby, che viene interpretato da Rick Yoon, e non come l'episodio precedente. Li confondo sempre. Era Christian Slater, non Kevin Bacon, che è peggio ancora, insomma. Quindi la storia di una maledizione su un pugnale fatto da una strega. Edward Cullen, perché Edward Cullen, vabbè, viene pugnalato da un ragazzo su cui era caduta la maledizione del pugnale stregato, ma viene aiutato da una famiglia che ha a che fare da tre generazioni, mica da una, con quella maledizione. La trama del film non segue quella dell'omonimo videogioco uscito poco prima della data di rilascio del film, quindi non c'entra un cazzo, ma probabilmente neanche col primo. Ma ci domandiamo, perché parte questo? Perché se i protagonisti sono un po' diversi, la storia non è direttamente collegata, si chiama Alone in the Dark 2, forse per una questione di licenze, cioè Alone in the Dark esisteva e quindi non potevano rifare. Vabbè, non so, magari anche meglio del primo, perché io il primo l'ho visto, ragazzi, è inutile, era brutterrimino, brutterrimino, insomma. Vabbè. Però è forse perché non c'avevo bolla, forse per quello. Vabbè, comunque io direi che c'è un problema. C'è un problema perché c'è stata la cassa panca che si è spostata. Si è spostata da sola e noi adesso non sappiamo che cosa è successo, quindi io facciamo così, salziamo piano che ancora non stiamo in the dark. Allora facciamo una cosa, io spengo questo video così spengo almeno il video. Possiamo concentrare l'udito. Ecco, ho spento il video. Bene, io mi alzo, mi avvicino verso la porta piano, però piano. È aperta la porta, adesso la apro, ecco, non si apre più. Questa non è la porta, no, questo è il cassetto della verdura. Verdura, ma non hai lasciato aperta la porta? Io te l'ho detto di metterci il bastoncino Findus in mezzo, tu non mi hai dato retta. E adesso? Io mi metto dentro la cosa della verdura. Poi lei, non lo so, mi sa che ci entri però. Dunque ci scrive Exit Planet Dust, che è un utente che commenta a dire il vero molto spesso sia su Archeologia Videoludica sia su Dietrologia Videoludica, e qui si è prodigato in un triplo commento che è molto lungo. Vi potete trovarlo chiaramente sul sito, noi facciamo un piccolo riassunto. Chiaramente si riferisce alla puntata sul Natale e ci dice che non ha tantissimi ricordi legati al Natale. Insomma, ricorda Tomb Raider 3, Mortal Kombat 2 per Mega Drive e Ye'ar Kung Fu, che ha subito titillato i ricordi di Cristiano, che è rimasto qui commosso. A farmi compagnia. No, ma io sono commosso. È scoppiato in lacrime, sì. Non appena ha letto Ye'ar Kung Fu. Io dico Fu, che insieme a Decathlon per Commodore 64 è stato il gioco che più mi ha fatto distruggere i joystick. Dico solo questo, per cui vabbè, quello sì, record di bestemmie nelle case degli italiani, sì, e non solo. Beh, era un gioco pazzesco. Comunque lungo, era proprio troppo difficile, cioè arrivavi a sesto settimo non sapevi più come colpirlo, questi disgraziati. Vabbè. Ma sai che io Ye'ar Kung Fu ce l'avevo per il Commodore 64 anch'io, come il nostro utente Excel Planet Dust, e tra l'altro tu pensa un po', era una cassetta originale, era una compilation della Konami, c'erano diversi giochi bellissimi tra l'altro, e Ye'ar Kung Fu era fatto molto bene, e mi ricordo che perdevo sempre allo scontro, che suppongo fosse l'ultimo, contro il mio doppelganger, sì, certo. Come si dice? Sì, come no. Quindi perché praticamente non è semplicemente uno come Street Fighter che faceva le tue mosse e basta, sì. Era proprio quello che ti copiava tutti i movimenti, cioè tu eri proprio uno specchio delle tue azioni, quindi non riuscivo a capire come dovevo batterlo, e quindi non la diamo la gabola per batterlo, questo ce la ricordiamo, no, perché io non me la ricordo assolutamente, non ce la ricordo. Io penso di averlo battuto, era un gioco, tra l'altro era un gioco pazzesco. Aveva una tuta di colore diverso, mi ricordo questo, non era bianca come il protagonista, però per il resto era uguale. Sì, certo, già là si capiva che insomma un pochettino bisognava aiutare a non far confusione. Sì, dunque, invece, passiamo alla seconda email di Enzo Di Manno, che ci dice: scusate, ma come si chiama il gioco nella cover? Ricordo un gioco simile a cui giocavo da piccolo, grazie e buon Natale. Io in questo momento sto andando a cercare la cover di quella puntata, certo, perché non me lo ricordo assolutamente. Vediamo un po' sul blog di Archeologia Videoludica che cosa ci dice. Ovviamente qui nella registrazione originale ci hai messo 2 ore, ma abbiamo tagliato tutto e arriviamo subito al punto in cui hai trovato la cover. Assolutamente. Sì, guarda, sto chiaramente cercando la cosa. No, e allora, non lo so che gioco è questo, Cristiano. Io ti mando il link, poi tu dimmi che cosa ne pensi. Chiaramente, anche ti ho mandato il link. Lo vado a vedere, ma. Oh, yeah, yeah. No, questo mi ricorda. No, non credo sia un gioco, non lo so. Un giorno di quando eri piccolo che arrivò Babbo Natale. No, mi ricordo una sorta di demo non interattiva fatta su Commodore 64 in occasione del Natale, che ho visto ultimamente proprio su YouTube. Però non so se è la stessa, me la ricorda moltissimo, ma non ricordo purtroppo il nome. Vabbè, comunque, questo è comodo. Comunque mi sembra un'ottima chiusura per la puntata questa. Precisa, cioè, ha dato informazioni precise. No, io, ma questo sarà Commodore, però, scusami, questa immagine che vedo. Sì, no, sicuramente è Commodore, sicuramente è Commodore. È un gioco di Babbo Natale, insomma, voglio anche supporre, e adesso... Ma questo è Pizzi che l'ha messo questa cover, quindi penso che... Sì, sì, sì, ma sono abbastanza sicuro che lui non sappia quale sia il gioco. Però Luigi Marrone se n'è già andato, lui avrebbe certamente saputo quale videogioco è questo. Però vabbè, e come al solito la nostra professionalità... è leggenda praticamente, quindi vi salutiamo così con questa puntata dedicata ad Alone in the Dark, sperando che come al solito vi sia piaciuta, e nonostante insomma tutte le emergenze di produzione. Sì, io ringrazio sia te sia Luigi e soprattutto Pizzi, che mi ha buttato in maniera anche un po' improvvisa in questa puntata. Però quando ho sentito Alone in the Dark ho detto oh, mamma mia, Alone in the Dark, scusate, fatemi era destino. Dovevo essere assolutamente, e poi mi ha fatto molto piacere comunque, perché è la prima volta che, come l'ho detto un po' scherzando prima, però mi ha fatto veramente piacere entrare in questo podcast leggendario con un team leggendario anche, perché non avevo mai fatto puntate sia con te che con Luigi Marrone, che infatti. Ascolto sempre molto volentieri, quindi sono molto felice di questa esperienza con voi. Va bene. Va bene, grazie a te Cristiano, e ci risentiamo sicuramente in futuro per altre iniziative. Grazie a tutti voi ascoltatori, e rimanete anche prossimamente con Archeologia Videoludica. Ciao, ciao, ciao. No, ti giuro che mi sembra, guarda che fa fini che ci ha azzeccato, vabbè che lo trovo altamente improbabile, però poteva essere una schermata di quella specie di demo, che, però non ricordo manco di quello, quindi è un loop di ignoranza.